non è vero, non esiste una diretta podcast. Siamo sulla diretta Facebook. Questo è il 22esimo. 2-2. Due. Alla telecamera. La telecamera è là. No, vabbè. C'è una stuccia. Sì, si vede che sei un wookie. Perfetto. E questo è il 22esimo episodio di Petrolieri Spaziali e si chiama appunto Balla coi wookie. E nell'ultima puntata c'era un dubbio amletico, cioè se avremmo scelto la parte dell'impero mercificato oppure della Repubblica ben pensante, e per risolvere il quesito a chi non ci ha visto su quale delle due fazioni abbiamo preso, ora faremo potevi fare un sondaggio, Vez. Però ora faremo partire una musica che vi farà capire forse da che parte abbiamo preso. Che sarà anche la nostra sigla iniziale. Quindi, non me lo spiego. Ufficialmente siamo diventati cattivi. Non che prima fossimo buoni. A differenza degli altri giochi, delle altre campagne, delle altre avventure, qui siamo più spingiti. Questo è di sapere che in questo momento è Salla che sta praticamente suonando questa con la chitarra. Credibilissimo. Con questo sottofondo facciamo un piccolo riassunto dell'ultima puntata. Allora, cosa è successo, Sceo? Non te lo ricordi, perché non c'eri. Perché ero spento. Perché stranamente non c'era Sciuno. Non eri spento. Nell'ultima puntata siamo approdati su Kashyyyk. Però il master ha detto che la motivazione stavolta era buona e l'ha apprezzata, quindi... Ho risposto al messaggio dicendo va bene. Devo dire che se ne frega. Cioè che abbiamo tirato una chiave inglese e ti sei spento. A me è piaciuto che invece che farsi insultare da tutti, ti sei fatto insultare solo da Giulio. Hai apprezzato, grazie. Comunque sia, nell'ultima puntata, nell'ultimo episodio di Petrolieri, a parte... Ah, è vero, tu l'altro ti sei perso anche il video e tutto, bravo. Vai, ciao. Tu perché capisci? Che sono dato un attimo una sciacquata. Ah, perché stavo sudando. E... La vita in diretta. No, però è stato un po'... Quello che abbiamo visto... No. Io anche reg. Allora, forse un po' Spiegate che se parla Salla... Sì, ma Salla è la che dovevo passare, poi Salla non parla. Agisce. Salla. Ah, dici... Guarda che lagga la cosa più bella del mondo. Salla è lo scudo tiracolpi del profilo. Allora... Sì. È fatta con ritardo. Quello che stavo dicendo era che nell'ultimo episodio siamo approdati finalmente su Kashyyyk, dove c'era parecchi Wookiee, nessuno di noi sa lo Wookiee, e quindi abbiamo avuto delle super bellissime interazioni con la popolazione locale. No, la nostra missione, se ti ricordi, di accettarla. Quindi sarei stato utile io. Tu non ti ricordi assolutamente nulla. No, però sarei stato utile. Facciamo un passo ancora. Carina, sarei stato utile. Quindi la sua simpatia c'era mancata. Allora, tu ti ricordi di Tron? Game non of Thrones? Film, no. Quello... Niente. E allora... Che brutto, così Salla è tipo in punizione, sembra. Sì. Dietro la lavagna. No, cioè, prima gli spari e poi lo... Ci vede, no. Vede anche Giulio, però. Da dietro, però, vabbè. Ma ti piace, non ti piace? Ci vedi più o meno tutti. Ah no, va bene. Dobbiamo tirare il dado bianco intanto. Sì, aspetta. Ti copro, Sceo. Facciamo un attimo un riassunto brevissimo. Allora, di Tron non ti ricordi. Noi abbiamo incontrato questo ammiraglio dell'impero che vuole rifondare l'impero. Che ha detto che tutte le cose che abbiamo fatto erano buone per lui. Quindi c'è questa missione di andare a questo sistema di Kashyyyk che è composto dal pianeta degli Wookiee e dal pianeta dei Trandoshan e mettere i Trandoshan contro gli Wookiee. Okay. Perché sennò gli Wookiee si mettono alla Repubblica ben pensante e questo è male. Ok. Allora siamo andati via e abbiamo sguaggiato di tutti. No, non ancora. Siamo arrivati sopra Trandosha. Dopo una serie infinita di tentativi siamo riusciti a parlare con qualcuno che non capisce un cazzo, però almeno è dalla parte nostra. Si chiama Shkishk. Ok. E il nome abbiamo subito deciso per quello che alla fine verrà eliminato. Ma prima ci serve. Quindi siamo messi d'accordo che quando noi lo chiamiamo, lui porta i suoi tre scagnozzi su questa base Wookie per fargliela conquistare, perché loro hanno bisogno di una testa di ponte sul pianeta degli Wookie, che è Kashyyyk, il sistema di Kashyyyk, che è fantasia. Solo che invece di una testa di ponte abbiamo beccato una testa di cazzo, che era il capo dei ribelli. Esatto, e questo è proprio successo così. Cioè, noi siamo arrivati su Kashyyyk. Ma raga, no, mi ricordavo male. Sì, siamo arrivati sul pianeta di Kashyyyk. Ma ho solo 6 ferite. Sono P, cazzo. Sì, spara ancora un po'. Siamo andati sul pianeta. Siamo andati sul pianeta perché è da questa base qua. Ci siamo presentati da questa base. Sì. Abbiamo detto, siamo inseguiti dall'impero, dal Moff Dardano, perché abbiamo liberato lui. E abbiamo detto tutto, perché abbiamo detto che più Jedi e anche l'altro non Jedi. Quindi stiamo cercando riparo da loro. Ed era anche paradossalmente, in un certo senso, vero. La verità, sì. Abbiamo incontrato una serie di personaggi interessantissimi con dei nomi niente affatto imbarazzanti. Tra cui Duros, Pendar, Zal. Pep no, e Kyle, che come diceva Arci era la testa di cazzo, cioè lui è simpatico di tutti. Kyle. Sì, non Kyle di South. No, è lui, Che anche... Comunque, Kyle è simpaticissimo, praticamente noi ci siamo presentati, ciao, noi abbiamo bisogno di aiuti. Beh, e lo chiedete a me l'aiuto? Sì. Però siete proprio dei coglioni, potevate chiedere a tanta altra gente nella galassia. Sì, però lo stiamo chiedendo a te. Insomma, è stata una cosa bellissima dove abbiamo tentato. Il capo della base. Il capo è un generale della ribellione, cioè non era proprio ribellione, perché ora è di Alderaan. Io avevo preso via il comlink mentre lui parlava, invece ero tutto tranquillamente. Poi tutti i vestiti, lasciando il nudo come un dizio. Sì, Arcia ha subito fatto amicizia. Vabbè, ok, Salla, ma sai, in realtà noi abbiamo pensato, perché avevamo tutti questi tizi che sono una specie di squadra speciale nella stessa stanza. Abbiamo pensato anche di ucciderli. Intanto si è rimasto nella nave. E lì sei utilissimo in realtà, insomma. Cioè molto più utile di quanto saresti, questo secondo me. Ma quindi cosa è successo? È successo che abbiamo parlato con questi qua, li abbiamo più o meno convinti della storia, ci ha detto va bene, nonostante alcune mosse non simpatiche, ma è che loro sono generati, perché cioè, sono il personaggio tipico di con potere di in questa però la lotta di idioti abbiamo incontrato un amico di Katta che era un pesce, sì, che si chiama Tender, che era anche simpatico. Era simpatico, per questo, Vez ha deciso di sparare in fronte. No, non è esattamente così. No, sei simpatico. Allora, noi stavamo cercando di arrivare alla sala. In teoria avrà avuto simpatia verso di te. No, era un PNG perfetto, disponibile. Era l'unico personaggio disponibile che abbiamo trovato nella campagna della galassia. E Vez e Giulio ha fatto in modo che noi lo uccidessimo. No. Perché? Vez ha detto, ma sono prima te e poi il mio compagno di balotta. No. Salla, il genio. Non è andato così. Comunque siamo arrivati, siamo quindi era uno della uno di questa squadra. Sì, ci sono. Allora, Zalla è una pilotessa. Sì. La testa pilota è un asso. Un'assa. Sì, pari opportunità. Assassinata. Sì, sai, con le quote rosa non dovuto mettere delle pilotesse anche comunque queste cose. E buona la forza, non ce ne volevo. Prima che sia te, non ce ne è quante volte. Ah, vedi che non sono tutte uguali, allora forse questa birra commerciale. Abbiamo detto la forza è l'unica leggermente diversa dalle altre. Cioè, intendi italiana? E se la Force ci vuole sponsorizzare, sarebbe veramente gradito. Stamon Calamari era un tecnico. Si è reso conto che dalla vostra nave parte un segnale a bassa intensità. No, però noi stavamo cercando la sala di comunicazioni prima, in questa base, che è una base fatta tipo ad alberi. Cioè, non sono alberi, però sono tipo delle specie di torri. Di casette sugli alberi. Connesse tra di loro. Ok. E stavo cercando questa sala di comunicazione che è nella torre principale, però è arrivato appunto, come diceva Giulio, l'amico di Katta, che è un pesce gatto, sembra che lui camminasse tra le grandi. Lui stava cercando questa cosa con un bazooka in mano girando per le strade. Vabbè, io sono vestito come il mio solito, e comunque non sono stato io a dare inizio alla carneficina. Faccio per esempio. Vabbè, via, colto, via lui scoperto, è arrivato e ha detto che c'è, vedi, ha trovato questo segnale nella nostra nave. Questo si è avvicinato a Katta. Ho trovato questo segnale che parte la vostra nave. Ci ha scoperto, cioè, è finito. È dell'impero. Salla ha pensato, qual è l'unica soluzione? Come Salla si annoiava e poi in un paese certo straniero, demonstrazioni, eccetera. Cosa ha detto? Morte! Cosa? E l'ha cominciato a uccidere. Cioè, in un certo senso non dovevate farmi scoprire, quindi aveva anche senso farlo fuori, però non so. Vabbè, comunque, comunque l'abbiamo salutato, l'abbiamo ringraziato. Però, uccidendolo... Abbiamo non puoi dire che è stato un incidente. Siamo nella merda. No, infatti dopo sono arrivati altri 4 Wookiee e c'è stato un altro piccolo incidente. Potresti dire che il calamaro è entrato nella nave e ha fatto partire questo segnale. Non siamo nella nave, siamo, nella, siamo, nella, siamo a un piano di distanza dalla sala di comunicazione. Sì. Abbiamo ucciso sto pesce. Ok, gli altri se ne sono accorti. Abbiamo brigliato. Esatto. Ho sparato con la sua arma che è un collo. No, allora, cioè, nel senso, ho capito, io, rega, ho sparato con la mia arma. Cioè, come se lui tipo primo non l'avesse ucciso. Io semplicemente finito. No, cioè, che stava scappando. Il posto quindi alle sue sofferenze. No, sì, nel senso, tra le urla dovute alla ferita della spada laser e il rumore della tua arma, comunque uno ti dice: ehi, aspetta. Però non è stato diciamo anche che tra il vecchio che scappa dicendo mi hanno tirato una spada laser, non è che cambia. In questa base, a parte la squadra che hai nominato, c'è molta gente. Il lavoro alla fine dicendo: ehi, tanca molto meno di salla. C'è, c'è un ma il problema non è stato quello. Il problema è un po' di buchi e il problema che... Cosa salla? Vabbè, lì è l'unica era ammazzarlo, cioè nel senso, pensate che abbia sbagliato a ucciderlo. Era non attaccarlo prima. Quello l'ha fatto lui, sì, quindi cosa vuoi da me? Quello che hai fatto. Il genio è stato buono. In teoria, no, siccome era intanto è l'unica disponibile era quella. Però di salla il carro rega, smettetela di rompere il cazzo col tizio che è morto. Chi se ne frega, il problema è che avete colpito me. Avete colpito? Sono arrivato in plurale. Allora, è sceso l'ascensore. Siamo arrivati all'ascensore per arrivare su. Sono arrivati 4 Wookiee enormi, giganti, disumani. Però poi poi però esatto, lui ha tolto il viale balestre e a quel punto loro sono diventati ancora più forti, perché a quanto pare sono più forti se colpiscono a manate che se sparano. Con le balestre mi avrebbero one shottato. No, avrebbero fatto più danni, ma avrebbero tirato meno con meno. Tu pensi questo è l'ultimo che deve parlare. Cioè, se, se Salla è andato contro tutti. Beccavano... Certo. Il buon Zoln è andato avanti con la spada avanti tutti, e però a quel punto l'unica era sparare e ovviamente cioè, a quel punto ormai io no, ne ho ucciso un po', però ovviamente erano 4 buchi, 4 buchi disarmati, invece uno ti picchio e Salla un Jedi con due spade laser. Invece ho fatto prendiamolo più pari questo combattimento. Diciamo anche che se non l'avessi fatto sarebbe poi morto e poi morti noi. E poi in realtà io gli unici danni che mi hanno fatto veramente male sono stati tuoi. Sì, fino a un certo punto. Mi hai tolto 16 punti ferita. Sì, beh, 4 scimmie disarmate contro un Jedi con due spade laser, non è che ci voglia. Ma tu cosa stai facendo in quel momento? Io ho appena fatto il turno per tu li hai disarmati e lui li ha colpiti, sì, aveva sentito. Vabbè, comunque li abbiamo lui ha colpito me. Io, beh, ne ho comunque uccisi altri tre. Stavi piangendo ancora per il tuo amico, nel frattempo tu piangevi per l'amico. Sì. No, ho lasciato l'ultimo Wookiee. E quindi niente, siamo arrivati nell'ascensore. Siamo entrati nell'ascensore e dopodiché l'ascensore si è bloccato. E qui ricominciamo. Se sparato l'ultimo Wookiee, avresti dovuto sparare, non tirare un dado rosso. Tipo ho scattato l'allarme. Quindi. Non lo si sa, si è bloccato l'ascensore. A questo punto, tiriamo. I dadi bianchi d'inizio sessione. Io? Chiediamo i dadi bianchi. Chiedo al master, io dove sono? Nella nave, ok, ma dov'è situata? Fuori da sto campo. All'aperto. Ah, devo aggiungere il più 2 della volta scorsa. Una spiaggia. Quanto distante da... Qualche centinaio di metri. Ah, è lì comunque. Okay. Chiediamo i dadi bianchi. Io hai detto che non ero spento. Un nero. Un nero e un bianco. Un nero. No, un bianco, sono giù. Diretta va... Ah, perché sì, a me è venuta la notizia. Ho sentito qualcosa di tutto questo, sì, che è successo. Cazzo, mi qualcosa. Assolutamente no. Aspetta che gomma. Gomma. Avevo capito la birra. L'altra gomma sta che è. Salla, cosa fare con la porta? Tu scemo scemo da me gomma gomma. Roll. Ancora vivo. Vai, io ve lo tiro. Due neri e uno bianco, siamo. Un nero. Tre neri e uno bianco. Mi piace questo dado. Tre neri e uno bianco, sembra la salata di ieri sera di cielo. E io uno bianco. Bam! Quattro neri e uno bianco. Salata di catta. Catta. Vai, catta! Oh! Quattro neri, tre bianchi. E scorro potente. 4 neri e 3 bianchi. Sì, Catta c'è un po' salvato. Catta c'è salvato. Ma tu Arci non hai più il tuo coso in più, vero? Sì, mi sono anche più vicino quasi. Ho fatto 73. C'ho 73 in totale. È per questo che avete 3. Sarò l'unico che ha tirato bianco anche il capodanno cinese. Perché pensare di sterminare tutti gli Wookiee sul pianeta mi ha fatto prendere un più 2. Se ve lo stesse domandando, siccome effettivamente nella diretta Facebook non c'è stato, quando si sono, hanno tirato i dadi per vedere la loro sittaggine o gedaggine, praticamente entrambi hanno avuto dei più, giusto? Io un più due. Un più due in moralità per Arci e un più tre addirittura. Un più tre, sì. Sì, ma più in immoralità. Sì, perché ammazzare un innocente calamaro quanto no, pare, non l'ha ammazzato Salla, Salla l'ha spellato. No, Marci, è vero, sei tu quello che l'ha ucciso. Arci poteva stare, sì, perché alla fine aveva preso solo due conflitti. Comunque Salla ne aveva sette di conflitti. Salla ha di merda per aver fatto 10. La verità è che Salla, a meno che io non gli dia 15-20 conflitti, tira foto più alto dei conflitti che prendi. Per cosa ho i conflitti? Che non ho fatto niente di male. Uno era per una battuta. Il classico. Impossibile. Impossibile. Ce l'hai standard. E l'altro è perché... Boh, ah, è vero, tutto. Perché Tender, ne ho fatti 1000 lì. Ci stavano. Ok. Bene, siamo dentro un ascensore. Con la musica. C'è il comando aprire le porte. No, si è bloccato. Quanti piani ci sono? Ma quindi non la tiriamo la moralità. La moralità siete... sì, la... tiene quella della volta prima. No? Quindi siete al secondo piano. Obligation? Quindi no, la tua. Non sì, tirate... si quindi no, siete non c'è quella volta prima, non c'è obligation, siete abbastanza nella merda senza. No, l'altra volta ha avuto lui l'obligation. Cioè, quindi ce la siamo tirati sono tra il secondo e il terzo piano e al terzo piano c'è la contata, comanda. Mi sa però. Ok. Toglietevela la puntata. Intanto io la diminuzione per l'obligation non ce l'avete. Tu ne avevi due. Ah, e noi torniamo al più due a Einstein. Più due? No, più due per lui. Vabbè, io più uno e più io avevo ancora segnato uno strain, immagino di non averlo. E intanto e la gomma con la figa, Mastermind dice altro. La furia omicida. Dice il master Kurtosh. Non dice altro, io faccio la solita scenetta di prendere il goblin. Che... Ah, con te c'è R5. Ah, è la mia riserva. No. Con noi è con noi. Cioè, gli abbiamo fatto provare anche a... Non è vero, no. È la schema perfetta. Sono io la riserva adesso. Che... cioè, meno freddo però di altre volte. Anzi, io la prima cosa che farei è proprio contattare col comlink, provare a vedere se si attiva. Io sono il primo a fare, cioè, non so se io... Allora, come va? Chiamiamo Shun. Ma si è svegliato. Cazzo, speriamo che sia sveglio sto cazzo di droide. Shun, siamo nella merda. Oh, cosa succede? Lumina. In questo momento siamo bloccati in un ascensore, in una torre piena di Wookiee incazzati. E dobbiamo riuscire... Dobbiamo riuscire a uscire prima che Vez ci ammazzi tutti. Esatto. Quindi vi hanno scoperto. Sì, vabbè, il piano almeno la copertura è saltata, quindi occhio, potrebbero venire a prenderti. Chi ha la Babbo Donoso? Ma in realtà mi sa che solo il tuo amico ce lo sapeva. Del... c'è anche questo, che direi okay, che è volete che... qui non posso fare molto. La prima cosa, chiudi la nave. Però Salla adesso è muto come un pesce. Beh, la nave immagino fosse già chiusa in realtà. Mi sono richiuso dentro. Comunque vabbè, chiudo la nave e... non lo so. No, chiudete la nave? Aspetta un attimo, aspetta, fammi ragionare. Aspetta, no, guarda... Da dove sono? Esatto, vai al posto di controllo. Aspetta, è tipo un parcheggio... della sulla spiaggia, non c'è niente okay. Intorno a te. Tipo, faccio un esempio, una spiaggia, c'è cioè il mare da no, parte, no, ok, però segno, spiaggia. Oltre alle spiaggia, torri, cazzo. Oltre alle torri ci sono dei parcheggi. No. Quindi niente. Cioè per faccio capire, per collegarmi spiaggia. In qualche modo, no. Comunque beh, devo arrivare all'edificio. No. Ok. No. Ottimo. Sceo è meglio se però siete. Coordini. Non è una piattaforma. Non è vero se provi a entrare nel sistema da lì e provare a hackerare qualcosa. Da qui come faccio? Dalla nave? Posso tentare di entrare nel sistema in qualche modo? Non so, potresti fare qualcosa. Non lo so, via... Non so come... Beh, io direi che intanto dalla nave può tipo comunicare con i Trandoshan e dirgli di attaccare, così abbiamo un diversivo. Sono sicuro. No, abbiamo noi il coso di comunicazione, per questo che stiamo andando alla centrale di comunicazione. Quindi non può comunicare con i Trandosh. Beh, può provarci, no? No, perché abbiamo noi la chiavetta per comunicare. Sì, ma chi se ne frega, farà un tiro di computer e ci proverà. È tipo il suo lavoro. Scusa, lui potrebbe pilotare la nave e creare il diversivo. È quello che pensavo, di muovere la nave. Tanto se vengono a cercare la nave, tanto vale che la sposto spara da qui. Spara sulla furia sul coda. Anzi, guarda prima la situazione. Qual è la situazione? Non so. Quella le penne non le avete prese, però. Ritorno alla nave. Che cos'erano le penne? La penna per scrivere. Allora, beh, dalla tua posizione vedi che c'è il mare. Ok, dalle altre parti? Non c'è il vetro tutto affiancato. Non vedo un cazzo. Che scusa, avrai le telecamere? No, abbiamo dei sensori super figli. Vabbè, ci sarà una sorta di radar, una minchia a te, mi dice che c'è qualcuno in avvicinamento. Cioè, sarà tipo per vedere dal portello, dai vari cose. All'interno sì, all'esterno no. Quando mai nel Millennium Falcon guardano dove sono, cioè guardano dagli oblò? No, possono vedere sotto l'entrata, però sì. No. Sì. Non l'ho mai fatto. Beh, vabbè, se apro l'entrata e l'entrata è aperta. Cosa vedo attraverso l'entrata? L'entrata vedi che sono due sagome in fondo all'entrata. Due sagome? Due sagome molto grosse. Oh, molto grosse. Puoi giocare di ruolo, scemo. Allora... Io mi spengo. Sì, andare. La nave, se ricordo bene, ha il cannone dietro. Dalla parte dietro. C'è un piede di cannoni. La nave ha un'arma che può sparare solo avanti e poi ne avete montato un'altra che non so che era. Abbiamo il dorsal quad laser cannon. No, abbiamo anche attivato la destroy. E poi abbiamo il turbo laser light che invece spara a torretta. Allora, io potrei sparare tutto l'arco. Io ho fatto questo simbolo per dire. Significa che... sì, probabilmente significa che hai sparato tutto l'arco. E vabbè, chiedo a loro. Io chiudo la nave, vengo verso di voi e comincio a sparare come diversivo. Può funzionare. Il problema è che voi in qualche modo dovete riuscire a sbloccare base hanno un pilota di X-Wing molto bravo. E se riesci per prima cosa a fottergli il suo caccia, allora. Come faccio? Mentre a terra glielo bombardi. Ah, sì. Vabbè, e a quel punto la base quello per la non violenza. Non più. La non violenza verso di voi soprattutto. Ma tu eri quella, non voglio combattere, ho paura. Infatti io voglio creare un diversivo perché non combattiate. Il diversivo mi fa saltare e fargli saltare il caccia perché quella è l'unica cosa che hanno per difendersi dall'invasione dei Trandoshan. Ok, voi sapete dov'è? Io so dov'è. Abbiamo visto dov'è l'hangar con le navi. Poi ho visto uno spazio. Ho visto Vezzo forse. Dove c'erano le navi, non hai visto il caccia era ancora in volo? No. Ho visto quello però, lo spazio con le navi. Vabbè, immagino sia. Cioè, in verità hai visto che nella foresta c'è un buco dove probabilmente. Ok, nella foresta c'è un buco. Comunque ora è in volo, quindi in caccia. Non lo sappiamo. L'ultima volta che abbiamo visto. Ok, io potrei anche creare il diverso. Era nella sala. Quindi il giorno prima. Quindi la tipa. Ah, il giorno prima, è passato un giorno. Ah, è vero. E l'alternativa è che io. Ah, però ci sono due guardie qui. Perché la cosa migliore sarebbe che io in qualche modo mi collego e vi sblocco l'ascensore. Prova a farlo, vedi se riesci a farlo da dove sei lì. Perché, cioè, in realtà io posso anche sollevare la nave, sparare, ma poi non so cosa cambia voi. Se rimanete bloccati nell'ascensore... Vedere se riesci a sbloccarla da lì. Poi se non ci riesci vedremo di pensare. Esiste a qualcos'altro. Una tecnologia wireless per cui possa tentare? Vediamo se sono fatti. Intanto noi faremo provare a accedere R5 al... Sceo, non c'è il wireless, devi mettere il tuo pene nel cazzino come in tutti Star Wars. Esatto. No, dalla nave. No, provavo dalla nave. Dalla nave alla porta. Esistono tecnologie. Devi mettere il tuo pene nel cazzino, nella vite, come in tutti Star Wars. Quindi no. No, puoi provare. Vabbè, sono conoscenze che possono esistere. Quello serve per connettere il droide, però. Se lui si connette alla nave... Magari la nave... difficile, però magari può riuscire. Attacco hacker. Okay. Mi passi dei dadi. 3 gialli e 2 verdi e poi non so la difficoltà. 3 viola e 2 neri. 3 verdi. Ok. 2 viola. 3 viola. 3 viola e 2 neri. Scusa Giulio. 3 viola e 2 neri. Ok. Va bene, dai. Basteranno 3 trionfi. Grazie, deve essere la più... ok. Raga, no. I dadi sono... Questo vuoi che lo ritiro? Cosa faccio? No. Però non era male prima, esatto. Forse era meglio. Allora, questo annulla questo, questi annullano questo. Ecco. Beh, in realtà questi annullano questo, un successo e due vantaggi. Mamma mia, C1, un successo e due vantaggi. Per fare cosa? Per tentare di sbloccare di entrare nei sistemi, perfetto inserimento. Entri nel sistema e sblocchi l'ascensore. Bene, che riprendi a salire. Andiamo in una sala comando. Ma è un boss, bossetto. Ragazzi. Forse facevamo merda, ma avevamo scelto. Ma ok, e poi ma l'ascensore dove... dovrebbe essere ripartito. Posso fare altro? Già che sono già che sono dentro il sistema, in quel senso. Ma se volete, posso tentare di collegarmi alle telecamere per indicarvi dove ci sono più o meno nemici. Sì. Se posso, se sono nel sistema. Dimmi tu quanto sono nel super sistema. Super ore, sì, vai. Prova. E nel frattempo chiudo, mi sigillo dentro la nave. Ok. Minchia, non mega volta. Ti avevo detto che è perfetto, Sceo. Faccio lo stesso tiro? Sì, intanto senti che... dei rumori fuori dalla nave. Mi sigillo, cos'è, tipo? Una specie di drive femminile. Rumori di voi, quei grossi cosi che si chiedono perché la nave è chiusa. Grande, Sceo. Ok, vabbè. Sei un boss. E ritiro per tentare di vedere le telecamere, quindi. Di accedere alle telecamere. Cioè, non so, io per ora che cosa ho accesso. Addio, ho fatto prima. Solo la chance. Non posso accedere due volte, ma ci prego. No, stavolta direi proprio di no. Allora, calma, questo o questo? Sono molti fallimenti. Sì, con questo tre fallimenti. Mm. No, due, scusami, due fallimenti e un vantaggio, però. Già hanno scoperto. Ok. Non hai fatto casini. Però non ce l'ho fatta. Ok, nel sistema delle telecamere non riesco ad entrare. Però le cose sono due, vi chiedo, volete... che la nave sia spostata da qui, perché comunque io mi sono chiuso dentro, ma immagino che le guardie qua fuori si chiedano il perché e vengano a controllare il perché mi sia chiuso dentro. Se volete però intanto posso accendere la nave. Sì. Mm-hmm. Preparati a far fuoco su qualunque e mi metto sulla torretta. Sono capace. Preparati a venirci. No, no, no, mettiti a controllo della nave. Okay. Spari da lì. Okay. Sì. Quindi accendo i motori e un'enorme fiammata dal tubo di scappamento uccide i due. Datemi l'iniziativa. Ok. Noi anche. Sì. E sì. Con vigilance. Vigilance. Ma è importanza per me. Cool. No, era tanto. Prendi quanti dadi vuoi. Cool. No, vigilance io tiro. Per me è uguale. Per me questa è la mia iniziativa, quindi. Giusto. Duro. Un successo. Tu hai una cosa speciale per cui ti vedi il Vigilance comunque? Sì. Che si chiama? Si chiama? Uncanny Reaction. Uncanny Reaction? Non credo. Riprova. Si chiama Azrugaz. No, comunque ce l'ho davvero. Leggermente aggiungo un blu quando tiro per l'iniziativa con Vigilance. Ma non tiri con Vigilance in questo caso. Tiri con... non lo so però. Sarà com'è Uncanny Reaction? Reaction. Reaction. Scusa, qua... nel tuo albero dovresti avercelo anche qua per fare. Ma quindi dal posto di comando della nave posso usare solo il cannone frontale? Immagino. Per tutto quello di cui hai bisogno. Quindi se lasciavate il droide diventavamo uno spaventoso. Aggiungo un blu per anche su droide sulla torretta. Sì, e poi non c'è scritto, so quanto sia bravo a sparare. Capite, sicuramente più bravo di quello che non nel senso avere... a provare ad andare a fine. Questo sistema è molto un successo e tre vantaggi danni, se non sei bravo a fare una cosa che negli altri, soprattutto però, se scusa, Arci, non puoi usare quell'altro. Qual è quell'altro? Rapid reaction. Puoi soffrire uno strain per darti un... so se l'ho preso. Un successo. Come si chiama? Rapid Reaction. Rapid Reaction. Ce l'ho. Soffri il numero di strain. Ah, tra l'altro punti esperienza ne ho preso. Non mi ricordo, in questo gioco li prendo. Soffrire uno strain è un successo gratis. Un fondo scusa, dimmi, uno sparati uno strain. Uno solo, però. Ah, giusto, okay, che stupido. Sì, che spada. Dimmi, non c'è il tempo per spararsi uno steampunk. Se ne hai già sparati due, dimmi. No, ma easy, tanto non vado più in corpo a corpo. Ho due verdi, allora. Ah, mi dimentico sempre, perché non ho ancora capito. Soffro uno strain e prendo un successo intanto. E in più? Due vantaggi. Un successo e due vantaggi. Io un successo e tre vantaggi, voi? Tre vantaggi. Qualcuno ha fatto più di due successi e tre vantaggi. Ah, io? Che miseria, ma tiri sempre delle robe da paura comunque. Che cazzo fai? Quanti ne tirano? 20, minchia. Verdi. C'è una volta che iniziamo prima. Sì. Tu dimmi quanto hai fatto. Aspetta, ti faccio vedere una cosa a voi. Il primo e il quarto. Sì, uno, perché ho fatto un trionfo. Se no, potevo usarli per togliere un nero. Non so esattamente quando lo posso usare, non l'ho ancora ben capito. Perché non hai. È per sbloccare gli studi. Cioè per... Il primo anche l'hai letto. Il primo della fila. Più. Il primo proprio della fila anche. Tecnica là. Il primo. Ah, primo. C'è anche quello. Non so in realtà se è questo il caso o meno. Forse questo potrebbe. Sì. Allora, perché in realtà non è chiarissimo cioè, quando è che per codice in teoria per superare un sistema di sicurezza no, cioè nel senso tipo copiare la password in codice giusto no, per decryptare comunicazioni e codice ok arriva... invece no, l'altro è per un per bypassare appunto il Excellent. Ok va bene per, proprio dovevi riuscire a connetterti da zero Sì. Anche certo da fuori senza cavi che è una cosa che di solito non succede dai raga su mi sta prima alla base sentite gli allarmi che iniziano a suonare siamo arrivati su però sta andando su e quando si è sbloccato mi ha fatto creare l'iniziativa ok è cominciato adesso a muoversi verso il piano superiore quando sta voi arriva su ci prepariamo per sparare quando si aprono le porte spariamo e poi faccio le domande la bambina di scout vi immagino io accendo il motore poi mi scappa. Okay. Io tengo il motore, si posso pilotare e sparare. Ah, comunque siccome il titolo è Balla coi Wookie, non vedremo neanche uno Wookie in questa puntata, secondo me. Tanto il cambio principale, sarà lì, nel senso i comandi saranno sempre lì, quindi... Ok. Aspetta, uso uno steampunk. Te lo passo io. A usare uno steampunk. No, ma te lo passo io. Te lo passo io. Prendi questo. Vabbè, come vuoi. Lo posso usare o lo devo usare quando dopo? Beh, un turno ce l'abbiamo. Puoi usare. Ok, dici. Fatto per te. Ma aspetta, il fatto che è finito il combattimento. No, non è finito. Cioè, per gli strain come funziona? Che dovreste avere un momento per riposare. Ok, va bene. Fare un paio di piani in ascensore è riposante. Esatto, soprattutto c'è la musichetta. E poi se si blocca è fermo. Sì, sì. Sì, sì. Mi prendo nota. Ok. L'ascensore arriva su e si aprono le porte. Va bene. E vedete che c'è un po' di gente nella sala. Siamo già dentro la sala? No, siete dentro l'ascensore ancora. Vedete che è uscito. L'ascensore no, ma dica quello che dice lui. Oltre l'uscio è direttamente la sala comando. Cioè, perché la porta è trasparente, non lo capisco. È aperta la porta. No, ah, ok. La porta. Ma siamo dentro la sala, cioè non c'è una porta. No, no. Ok, perfetto. È tipo l'attico, per capirci, è lì nella sala comando. Occhio a non danneggiare i sistemi di comunicazione. Ma quindi spariamo subito, sì. Occhio a non danneggiare i sistemi di comunicazione o usarli come armi. Chi c'è in questa silhouette sala? No, Arci, non farlo. No, in realtà basta che noi comunichiamo, quelli puoi danneggiare. Sì, però dobbiamo arrivare a comunicare. Fallo tu, capitano. Lo puoi essere più vicino. Quanta gente c'è? Quanta gente dato chi c'è? Ci sono svariati Wookie. Definisci svariati. Svariati intendo 11. 11. Vabbè, vai. È fermato. Piano sbagliato. Ciao. Tecnicamente la potete fare. Vai, andiamo, spariamo. Sagatta. Plim. Aspetta, andare in un battito in corpo a corpo. Poi che c'è, poi c'è il duro. Tecnicamente potete farlo, di scappare. Adesso do una spadata a Vez. Sparo, sparo. No? Io sarò... non abbiamo l'iniziativa. Non lo so, dipende. Sorpresa. E quindi fermi un attimo, ma vedo un cazzo cosa è successo. Ora sparo. Ah, si è aperto l'ascensore? Sì, siamo andati a trovare davanti 11 buchi. A quanta distanza duro sono sti buchi? Da short a medium. Duro chi è? La speed. Vado sugli short, sì, ce ne sono diversi. E la palestra comunque non sono presi in sorpresa. No, no, no, però se io attacco per primo c'ho un boost. Azia. Che non hanno ancora avuto azione, quindi ce l'ho. Questo è Art Attack. Ma tra l'altro l'ha pubblicato lo stesso anche Giovanni Micaccia. Sì. È vero? Sì, sì, il vero Giovanni Micaccia ha pubblicato. Non è allora, short sarebbe bene. Uno. L'ho fatto lui. La porto a due con l'autofire. Ah, può essere, sì, sì. Sono short, quindi... Io poi quando toccherà a me chiedo istruzioni, se arriva il comlink, tutto bene, siete arrivati nella sala, che devo fare? E sentirà solo... zing, zing, zing. Va bene. Ok, capito, arrivo. Hai qualcosa da obiettare, Giulio? In realtà short, uno non dovrebbero, a parte le tue guardie qua fuori, non dovrebbero venire verso di me, ovviamente. No, no. Let's spara, su. Mi stai mirando? Se miro devo prendere un'altra cosa e prendere un altro, capisci? Per voi sapere cosa sono i blu. I blu sono uno per l'accurate dell'arma e l'altro perché attacco prima di gente che non ha ancora aggiunto. È l'attacco furtivo. Ma il vantaggio è per... Sì, insomma, va bene. Perfetto, grazie. Non granché. La cattura, no? Sì, no, invece no, va bene. Allora... La fastidio vederlo lì. 1 e 2, scusa, quindi 2. Sì, no, cioè allora, vantaggi sono 4, il che è un'ottima cosa. Oh, mamma mia, non ne ho presi pochi. Allora, su 1 con il Deadly Accuracy gli faccio 18 danni. Mentre su gli altri 2. E che posso prendere 13 se ce ne sono 3 a short, 18, 13, 13. Esatto. E 6. Poi vado, c'è un con i torti per salire al prossimo. Tanto sì, è imbarazzante. Un milione? Sì, c'è l'anno prossimo. Ok, e andrei. Allora, posso, mi posso muovere? Posso, c'è un punto dove posso andare in copertura qui? No, è informazione. Si apre solo. Ah, okay, non posso muovere. No, perché qualche istante del vostro sì turno lo perdete nel mentre che l'ascensore sale. Vai. Hai detto 11 buchi più Duros, che si chiama Duros. Ah, duro, sì, che non è, sì, che è un... Quello blu. Un'altra, sì, ma un altro blu. È un... No, scusa, Vendri, che è un duro. Vendri. Okay. Ah, vedi? Mi ricordavo. Duro, Duro sa morire. Bravo, cioè, questo che non ci serve. E... vabbè, non so. Avete... posso fare io? Sì, cioè possiamo fare tutti in realtà. Io sì, ho fatto perché così evito di sparare su qualcuno che va in corpo a corpo. Io vado in corpo a corpo. Io semplicemente chiedo al comlink, siete nella sala comandi, com'è la situazione? È piena, prendi la nave e... Cioè, sono degli oggetti di silhouette grandi. Crea un varco nel tetto. Ok, io so esattamente la torre. Te la dico io, guarda, ti do le indicazioni. Ti dico, siamo in questa torre, fatta qui in questo posto. Voi siete sopra, ma se io sparo nell'attico rischio di colpire chi... Cioè, insomma, la stanza sopra rischio di colpire chiunque voi, compresi. Ci saranno dei vetri. È piena di wookie, quindi è più probabile che tu colpisca chiunque. Ok. Tanto non colpisci lontano dal vano dell'ascensore. Non posso sapere qual è. Se non è esterno, non lo so. Guarda i piani della base. Nord-sud-ovest-est. Noi siamo in questo. Non sparare qua. Okay. No, sud-ovest-est. Io parlo con lui al comlink. Chiedo come va, cosa devo fare. Lui mi consiglia Le console ci tenete tanto. No, sì. Io... mi consiglia di alzare la nave e sparare. O fai far prima lui la comunicazione della torre. Ah, vero. Avrà bisogno del sonno loro. Esatto, mi dice indicativamente il versante. Non si dice versante, il nostro il punto cardinale. Alcune due. Il lato da cui sono. Sì, mi dice indicativamente il lato da cui sono. Ti ho chiesto delle cose grosse. Due grosse. Un mezzo, un quarto. Scusa, perché non li butti fuori? La più grossa cosa che c'è sono due lì in quel mio raggio di vista. Ma sei grosso di uovo. Non riesci a buttarli fuori. Sì, non sono qua. Sono... non è, una brutta mossa, è un terzo di quelli che sono. No, adesso possiamo. Però. Sì, puoi volete volare. Volete volare con tutto il montacarichi. Sì, prendo i Wookie. Lancio i Wookie. Salla, tu vuoi volare? No. Magari corpo a corpo. Sono positivi quando sono neri. Vuoi flippare? Potrei meglio flippare o sarà una mia abilità che ho una volta a sessione. Usa. Apriccio una boccia. Usala, poi usa flippi dopo preferenze. L'abilità. Forse me lo prendo per la sto cazzo di grazie. Vabbè, allora faccio una cosa figa. Ah, scusa. Ritiro questo tiro, Giulio. Con la mia abilità figa. Perfetto. Buono, mi vengono fuori tre dadi bianchi. Quindi con uno attivo. Con uno attivo il potere, quindi mi rimasta due. Però posso anche fare una volta per sessione, posso soffrire due strain sul mio vicino, tipo Vez. Sì, credo che sia così. Veramente. E posso fare un'azione di forza invece che muovermi. Come fai? Quindi non mi muovo, però posso fare un altro tiro. Anche se, no, aspetta. Anche se ne hai già fatto un altro. Sì. Sì. Come dire, non è che prendi a me? Quindi prendo 8 Wookie. E li lancio fuori da me. No, dai, non ci... Cioè, no, quanti ne puoi prendere al massimo? 4 alla volta. Ci metto uno, no? Ok. Sicuro? Okay, siamo dal lato da cui non volano gli occhi giù dalla finestra. Ma non puoi prendere il duro, sai? Potrei divertirmi a sparare a colpirli al volo. Saltano fuori. Ormai. Cazzo, se la buttavi giù era spettacolo. Il giochino con le anatrelle e il cagnolino. Ma scusa. Però, falli volare, voglio vederli volare. Volare! No, volate, mia in realtà tu ne usi uno in più ogni volta che spendi un punto in più. Cioè ne prendi uno in più ogni volta che spendi un punto in più. Quindi a meno che tu non abbia fatto 8 bianchi. Perché 8 bianchi, scusami? Cioè uno attivo il potere. E quindi lo puoi usare su 1, 2, 3, 4, 5 persone massimo. Però ho fatto un'altra azione io perché ho un potere okay. E dirà 8 al massimo gli spacchi contro il specchio testa così. Sì, ma scusa, quanto è lontana la finestra? Distanza medium. Allora sì, qui sono tre gialli. Sì, sbatte tutti distruggendo qua è la difficoltà. Non c'è la difficoltà. Quindi un unico viola. Sì, ma loro non resisteranno. Vai, spazzali via. Loro non resisteranno. Resisteranno. Proveranno ad appigliarsi. Ah, in quel senso. Sì. Che merda. Te tolgo la vita. Vai. No, sotto solo di vantaggi. Cazzo, non ce la fai. Che sfiga. Beh, però sono 5 vantaggi. Sì, insomma, qualcosa succede. Che sfiga. Non credo. Minchia. Perché tu lo sei stato 26 più. Ma su, non è vero. No, ho fatto due successi e io non taglio. Quindi tu, allora, tu hai fatto 5? Sì, sì. Ok. Di quei 3, 3 mi sbalzi. Colpiscono la finestra, che si rompe, però loro non mi hanno. Cadono, cadono dentro. Ok. Oh, si vuole, ti sei aperto il barco. Esatto. Io, non so se hai capito, ho avuto la comunicazione con lui, mi ha spiegato che la cosa migliore è alzarmi in volo, senza astronave da solo, e sparare contro il tetto, ma dalla parte dove c'è le finestre rotte. Esatto, mi fa capire il lato da cui sono loro, quindi vado a sparare lì. No, piano, sta sparando contro di noi. No, ancora no, devo ancora sollevarmi in volo. Devo ancora sollevarmi in volo. Sì, ma devo sparare. Intanto mi avvicino. Non ti preparare dalla parte opposta rispetto a quella in cui siamo. No, e comunque non siamo noi. È cioè, figo. Fatto. È figo. Beh, Massimo, voi... fagli uccidere sti caccia. No, dobbiamo, ci serve la nave per salirci sopra e scappare, sì, sostanzialmente. Sì, però non è un buon modo di distruggere la torretta dove siamo. Cioè, lo farei il secondo lì. Vabbè, fate due colpi sul tetto. Cioè, ci cioè, non è che lancia delle bombe atomiche? No, beh, ho capito, ma cioè, nel senso ci siamo noi dentro, no? Sì, voi siete da una parte, c'è una stanza enorme e sparo dall'altra, non è automatico che vi colpisco, anzi. Io sono per la non violenza, non violenza. Non è una stanza enorme, è una decisione. No, non fa, cioè, non, cioè se ne è da qualche parte, non farlo. Adesso mi dice, tanto mi alzo in volo. Medium. Capitano, non faccia passare, cioè... C'è una fine gloriosa. Vabbè, allora sparo i piani inferiori, no, che così collassano. Dobbiamo espiare il peccato per aver ucciso te. No, capitano, è pazzo. Chiude la comunicazione. Sì. Vabbè, anche lui può parlare con Coblin, quindi in realtà se interviene e dice questa cosa qua, c'è pericoloso, piuttosto faccio un diversivo. Accosta la nave dalle finestre rotte. Scusa, ma se intanto faccio un diversivo? Prima possiamo salire sulla nave e poi spazzare i cazzi. Perché lo vuoi spazzare tu, egoista. A parte quello. Vabbè, fagli fare quello che vuoi. Vabbè, intanto... È il tuo schermo. Non lo so cosa, quante cose posso fare in questo turno, oltre a parlare. Una manovra e un'azione. No, ho solo parlato con lui finora. Spara, spara tutto. Una manovra e un'azione. Spara, un'altra spara. Manovra se prendi degli stray la nave. Ok, e vai, spara. La mia domanda è, beh, mi alzo in volo, vedo eventualmente il caccia intorno, è segnalato sui radar... Ok, allora mi avvicino... L'hangar è di fianco, tipo la torretta, è lì comunque. Non è vero, però non dovremmo distruggere questa base. L'hangar che mi hai descritto lui prima, insomma, è il posto, sì, quindi è lontano, non so dov'è. Allora c'è una spiaggia, inizia la foresta, dopo un po' sì, è vero, okay. Capitano, cioè, quindi qua ci sono le torri ed è più là, base dovrei superare e andare più avanti, per okay. Una volta per ora mi avvicino alla torre. Cosa avete detto? Mi avvicino alla torre. Okay. Va bene, avvicino alla torre. Non so, Sono si vuole sparare. No, più che altro se la sala comandi serve per poi comunicare, non posso distruggere. Ci sono altre 5 torre. Dove sparare? Uno, cosa stai facendo? Voglio uno spin-off tutto mio. Se volete creare, no, non puoi più sparare. No, se volete creare un diversivo, sparo un'altra torre. Basta, semplice. No, non dobbiamo distruggere. No. Allora va bene, mi avvicino solo puoi alla sparare terra, sulla popolazione. Però se degli uchi per terra, o sala o cazzo. Vai, rega, spazzate. Se qualcuno se non so Sassalla cosa vuol fare. Sassalla se è indeciso, provo a far partire la comunicazione. Se vuole andare a corpo a corpo, meglio se spari prima tu. Sassalla, mi metto dietro Vez. Quello che ha detto Vez. Mi metto dietro Wookie che ha scalzato lui, poi lo ucciderà Vez. Ah, lui ha tradito. C'è in modalità Giulio, si è messo. C'è una postazione in modalità Giulio, si è messo la comunicazione. Cioè? Modalità Giulio era quando combatteva in Dungeons, si sedeva nel combattimento mentre gli altri morivano. Male, non sai esattamente qual è quella principale che è collegata all'antenna. Ah, mi serve proprio quella principale, non basta una. Beh, in quella fa sostanzialmente identico. Abbiamo anche R5 da muovere. Abbiamo anche R5 da muovere. Dai, tanto però c'è, devi essere reattivo, su. Dai. Spara intanto. Ti conviene? Se E se vai in mezzo dopo rimani picchiato. Va bene, sparo al Duros. Che schifo. E tanto hai visto le potenzialità di Arti, quindi in realtà magari al turno dopo ma ha usato già usato il suo potere, vabbè, però tipo, vabbè, però al prossimo tiro 3 o 4 li butti giù intanto. No, stavo pensando che ci spazzano via. Benedetto. Cioè a me mi spazzano via. A meno che qualcuno da fuori non cominci a sparare. A meno che non chiudiamo la scelta. In realtà è quello che ho detto, premete il pulsante dell'ascensore, intanto andate al piano sotto, tentate una fuga, poi non siete arrivati alla sala comandi, ovvio. Poi loro prendono una granata, la mettono nella tromba dell'ascensore. Tanti saluti. Ma io da sulla nave vedo dentro. Ma non c'è mica con noi questi buchi. Sì. Cioè, quando sei, non so, che sei niente. Sì, in teoria, cioè, queste sono le finestre. Io mi sono messo qua perché l'idea è che poi se loro vogliono scappare, portando dalle finestre. Cioè, entra nella vetrata e ti fermi, freni quando sei davanti all'ascensore. Lui ha detto: non dobbiamo distruggere il comando perché no, ci serve. Sì, soprattutto perché siamo noi. Sì, ma vabbè, farà Salla che sarà l'unico a sopravvivere. Oh, dove metti me? Sopravvivo anch'io, scappo con la nave. Due viola. Sparo al duro. Good. Un successo, un vantaggio. Un successo, un vantaggio. Con la balestra Wookie che ho preso da prima. Hai range di peli? No, gunner. Non la posso usare se non ho range di peli. Cosa stai usando? Puoi usare vale gunner. No, vabbè, ho 6 di agility. Ha usato quelli di agility, sì. Sì, mi serve un pilotare. Hai 6 di agility? Sì, perché ho preso il punto in più dall'albero di peli. Il 5 all'inizio? No, ho comprato il quinto e ho preso Sì, nel senso... Avevo iniziato tipo con 4, ho comprato il quinto. E poi? Ho speso tutto in agility praticamente. Come fai ad avere il sesto? No, forse ho iniziato con 5, non mi ricordo. No, perché? No, ho iniziato con 4. Allora puoi averne preso uno. E poi ho preso il talento da qua. Allora più 5. E poi ne ho preso... No, devi prendere un altro dedication per farlo salire. L'ultimo che ho preso è stato questo, ma prima era 5. Avrà comprato con l'Exp, Giulio? Sì. Lui starta con 4, che l'Exp arriva a 5 con l'Exp. Sì, ma o l'ha fatto all'inizio, sì, fatto. Cioè in è una delle prime cose che ho fatto. Sì. No, o l'hai fatto in creazione di personaggio o non la puoi aver fatto, perché non puoi spendere i punti esperienza per aumentare le caratteristiche, se non in fase di creazione di un personaggio. Esatto. Dopo per aumentarle devi prendere i dedication. O sei con 5, quello l'ho preso. No, sono partito con 4. Poi ho speso i punti exp una volta per alzarmi di 1. Ma l'ho fatto tipo all'inizio. Di 1 arrivi a 5, come fa a essere 6? No, perché all'inizio allora non lo sapevo. Allora ne hai 5 e hai 50 punti esperienza. Evviva dell'exp. Allora anch'io l'ho dimenticato. Presence, invece l'ho comprata dopo. Ne ho due in presence adesso. Sì, poi se devi fare il test su presence hai quasi di un dato. Io poi al massimo lo ritiro in ballo dicendo che è due. Sì. Allora, aspetta che rifaccio il tiro. Posso usare la balestra Wookie o... Sì, puoi usarla. No, aspetta. Serve qualcosa. Hai... Di Brown 2. Perché è camber. Balestra, che fa più danni la balestra della torre. Fa 10 danni la balestra Wookie. Ah, i cavi. Scusa, e a mani facevano più danni che le balestre? No, è possibile. No, facevano più danni le balestre, però beccavano più facilmente in corpo a corpo. Ah, beh, certo, sì. Certo. Una carezza pelosa contro un proiettile. Preferisco la carezza pelosa. Sala si è riparato dietro di Vez? Sì. Sì. twittare. Tu Salon Knight non riesce tipo a rimandare dietro i colpi della balestra? Sì. No. That's... Come no? Quando no. Non deve attaccare, attacca. La mia specializzazione può solo pararli. Okay, quando vai fare no. Quello che hai fatto tu con un hook e buttarlo. Attacchi solo gli innocenti. No, vabbè, adesso io gli cadrò davanti e poi lo attaccherò. Ma cosa? Sì, ma non hai capito che adesso io ti ammazzo. E uno in più perché se ne arrivano 8. Allora uso la carabina normale. Spero di no, non ti conviene. Cosa? Uccidermi. Perché no? Perché perdi un'azione e poi ti arrivano addosso. Allora. No, no, io dico che sei stato tu. Scusa, ma da dove sono non posso mirare? Attore. Sono... Puoi sparare con un'arma di una nave e colpire una persona dentro. E due. 5 successi. No, Bravo, catta! 5 morti! Quindi sono 15 danni. Con la carabina fa 9. Ah, ok. Range devi, critico 3, range medium. Dimmi danni, 14. C'è 9 più 1 per ogni successo, giusto? Quindi 9 più 5, 14. Ti successi hai fatto? Questi. Minchia. Bravo, catta. Fatto bene a passarti la balestra prima. Non l'ha colpito con la balestra. No, ho usato la carabina normale. Fatto bene a passarti la balestra così che puoi usare le carabine. Ok. Va bene. Quindi sta loro. E Salla cosa fa? Salla si è nascosto. Si è nascosto. Scusa, ma se... Pavi... Tra le gambe di Mezza accendi la spada laser. Lascio la nave a mezz'aria. Sì. Dopo lo aiuti, visto che Mezza abbiamo un pisello lunghissimo e luminoso. Però poi la tiro su e Mezza si apre a metà. E li distrarrebbe. Ma dice che è troppo. Si è fatto troppo. Come dire, è troppo grande quell'arma. Per la torretta invece è meglio. È più. Hai visto la riproduzione fatta sopra bene la spada laser? Cioè i 10 danni dell'arma di una nave sono 50 per una persona. Quindi fai la distruzione che tu provocherai sparando dentro. Comunque, no, non spararci. Anche con la torretta è la stessa cosa. Le armi sono progettate per la battaglia. Non spararci. No, infatti, infatti chiedevo a posto. Ci sono... Abbiamo ancora i lanciarazzi quelli che no, abbiamo preso. Ho una domanda per Sceo. Sì? Ed è una cosa seria, quindi concentrati. Se tu hai hackerato il tutto per far funzionare il coso, l'ascensore, non puoi hackerare il tutto di nuovo per mandare il messaggio ai Trandoshan? Ce l'avete voi la chiavetta per mandare il messaggio? Se ne fotte, gliela mandi uguale, tiri di Trandoshan, messaggio in uscita. Lo so, in teoria l'abbiamo noi. Noi abbiamo la chiavetta per parlare con lui, ma se tu vuoi parlare al pianeta sti cazzi, puoi parlare uguale. Facciamolo fare a R5. R5 non ha ancora fatto niente, facciamolo andare e comunicare. È morto. Cosa? Cosa è morto? Beh, lo mandi in mezzo agli UG. Beh, va lì e fa, è un cazzo di droide. Deve attraversare la stanza con 8 UG in piedi. È un droide, cioè la cosa più irrilevante che possano vedere. Sì, sì. Però... Al massimo lo ammazzano e... Beh, se no nel frattempo, visto che effettivamente è stupido sparare lì dentro, nel frattempo posso tentare anch'io di inviare un messaggio... Nel tempo non so perché. Beh, R5 però si può muovere. Nel prossimo turno dico, che siccome non sparerò... R5 però anch'io. Possiamo ancora muovere, Giulio. Dovete tirare un'iniziativa di R5 però. No, ma non so quanto abbia. Chi ce le ha le statistiche di R5? Tu ce le hai. Vai a vedere un droide. Vabbè, ma tanto avrà uno. Il manuale. Dove è? Tirerà un dado verde e basta. Che droide devo vedere? Astro droide. Non penso che abbia più presenza. Quindi. È un bello astro droide. È un bello astro droide, però. Nella lista degli avversari lo trovo? Mm-hmm. Nei droidi. Ok. Allora, buon calamari meccanico. Sì, l'ho visto. Viva il Nemesis. Il Nemesis come idea. Solo che loro non si limiterebbero alla fantasia, potrebbero squartare a vicenda. Sul serio. Vabbè, vediamo. Eccolo, Assassin Droid. Astromech Droid, questo? Mm-hmm. Allora, cosa deve tirare? La... Cool? Mm-hmm. Cool è... Presence. Presence a 1. Ma è inutile, quella delle cose bassissime. Va bene. 1. Fa 0. Okay, sì, sì. Good news, direi. Ma... Sì. Ma no, no, no, no, esatto, no, no, sì, sì, sì, sì, sì. In teoria sì. Sì, sì. Ah, che schifo, ho scritto riproduzione spada laser, ho beccato due. Beh, comunque può, può agire lo stesso, no? Dice come tutti noi. Hai beccato? Cosa ridi? Ridi mentre leggi i nostri nemici che ci uccidono. No, per... non mi ricordo di... Può agire quindi R5. Sì, ma sì. Che gli facciamo fare? Ma vuol fare un movimento o un'azione. Facciamo muovere verso il coso. O può sparare? No, direi che è inutile farlo. Sparare, no. Beh, in verità, no, range engaged, stun damage. No, robo melee. Non può mica curare. Niente, lo mandiamo con la chiavetta a comunicare. Si muove verso le cose. Ok. Circospetto. Circospetto, certo. Noi. No, sta a loro. Sì, a tutti loro. E ora ci spazzano via. Sembra che sia noi, però, è vero? No, no, no. Io no, mi pare che sto già tirando. Ah! Ho fatto dei trio. Cosa fanno? Sparano o vengono di corpo a corpo? No, sparano. Sparano su... Che... Tutti? No, un gruppo. Quanti sono? Ah, vale, valgono come gruppo. Ok, beh, gli faccio il dodge, penso. Ok, un grade. Sì, di 2. Ok. Bravo Giulio, vedi, anche tu vuoi puoi tirare male. Se uno ti guarda... Nel tuo turno, Vez, quando hai sparato, quanto male hai fatto? Effettivamente. Ne ho ammazzati due. Una cosa abbastanza inspiegabile, ma è vero. Dove sono le gomme? Con bestemmie annesse di solito, è vero. Gli altri gomme? Sparano a darci. Per cosa? Questa gente di merda. In effetti, loro l'hanno visto, lui ha fatto così, poi gli altri sono catapultati indietro, ma non è che possono sapere sì, che sia stato lui. Sono dei cani di merda. Cioè. Beh, i primi della fila, visto che è stata nascosto, sono vero. È un modo per ringraziarti del tuo bellissimo pigiama. Esatto. Tranquillo, Arci. Tu hai qualcosa per... Sì. Di cosa? Sì, però no, di hai, cosa. Hai difesa, però, Arci. Ho difesa, esatto, difesa. Dai, certo. Gran difesa. Poi hai anche, hai anche il comlink. Uno, già sono due zeri in meno, però uno. Hai anche il cobbling 0,01 quindi 1, 2, 3, 4 di ogni arma avversaria ignoro un colpo. No, di ogni persona per ogni persona presente la stanza 4 successi e 3 svantaggi. Aia. Gli cade svantaggi l'arma. Non mi beccano successi. Sono successi, però fanno dei bellissimi colpi. Sono 14 danni. Sì. Ah, però io ho no, quanti colpi? Tipo, sono un gruppo che ti... esatto. Ah, quindi riduco 5. Sì, riduci sotto. Ne prendo 9. Sti cazzi. Incas. Quanto hai? 12. Siamo nella merda. Se puoi resta vivo, così dopo gli butti se fuori. Puoi. Se no, puoi resta vivo. Cioè hai preso 9 su 12? No, no, ho preso di 9 su 12. Sì, hai preso 9 danni. Sì, ah, 9 su 12 e lui resta del 9. Sì. Bene, la difesa che cazzo serve? Gli dai un nero. Gli dai un nero. Ha tirato un nero, è venuto... No, in verità ha tirato un sacco di svantaggi. Poi ha tirato un sacco di successi. Ah, gli svantaggi si manifestano in qualche modo? O... Lo scopriremo. Beh, sicuramente si espongono. Avremo un vantaggio, avremo un vantaggio a colpire. Rivelano le loro intenzioni ostili. Oh! Non lo... Cazzo, ti hanno sgamato! Capite che vi odiano. Figa, non ce l'hanno con noi. Vabbè, è che fa ricadere l'arma è troppo. Ci sta, dai. Ah, fagliela tipo un po' inceppare. Esplode. Vabbè, no, avranno un nero la prossima cosa che faranno. Fai che a uno si inceppa l'arma. Cazzo. Ti cade la nave. Lo svantaggio non è che tanto vi spara, sparano a gruppo. Lo svantaggio è che per il controllo della nave finisce contro di noi e muoiono. Vabbè. Ma diciamo che voi avrete. Loro avranno un nero alla prossima azione e voi avrete un azzurro. Vabbè. Poi contro questo gruppo. Ci manca il Duros. Che spara a chi gli ha sparato. Ma il Duros è, non ho ancora capito, scusate. Ah, ce l'hai, ecco. No, il ruolo l'ho capito, non ho capito. Non questa, ho... roba ah, qua, okay. Questa roba qua, okay, è un Duros. Lo vedi che è un cazzo di Duros? Scusa. Cazzo Duros. Si chiama Hendry. Dalla Hendry. No, perché lui non è... Ah no, si c'è... Vendri è disarmato e non ama colpire gli avversari. Basterà cambiare qualche dettaglio. Star Destroyer. Tutti quelli che guardano. Distrugge ascensori. Schiaccia Jedi. Schiaccia Jedi. Tira un trionfo automatico nello schiacciare un Jedi. Fatto una domanda abbastanza basilare. Hanno contraerea terrestre. Ci hanno dei cannoni. Fantastico. Io so che devi andare via presto, però cerca di non spegnerti mentre stai alla guida della nave. No, vabbè, faccio più tardi. Le 11. Dormirò dopo. Che domani devi andare a lavorare? Sì, mi ha chiesto di arrivare un po' prima perché devo fare una commissione. No, ma prima quanto? Un'oretta prima, quindi devo cominciare alle 8 in teoria invece che delle 9. Allora, il duro si avvicina in copertura. Non muoio. Stavo 6. Poi... No. Scusami, no, che cos'è tecnicamente l'avvicinarsi in copertura? Movimento. Ah, ok. Cos'è di avvicinarsi in copertura? No. Movimento, si avvicina in copertura. Ah, no, era per capire se era una cosa figa che io non sapevo si potesse fare. Che dicevo, però ha capito. Bravo, ha capito la spiegazione misteriosa. Ho detto che si avvicina, ma in copertura, ok? Ah, Giulio, grande, credi. Come le spieghi tu? Bene, raga, ho finito di fare quello che stavo facendo. Potrei anche giocare. Ci sta masturbando. Sì, che non lo vedi, per no? Fortuna che è piccolo e è fuori, quindi sì. Ok, due successi. Però quella chiazza gocciola. Quindi la granata parte colpisce. La granata. E poi vi lamentate delle mie armi una della granata, nave. A questo punto comincia a bombardare. No, una granata. Gli tiro una grata. Adesso gliela sparo una anch'io in faccia. Vabbè, io picchio Vezzo dopo tanto. Gli tiro la granata così mi cade. Devi sperare che io non sopravviva al tuo colpo. Sono 9 il mio colpo sei davanti a me, ti critto easy. Aim. Allo strain. Per carta. Cosa succede? Ci ho sparato una granata addosso. Carta si è fatto più male, ma ci facciamo male anche noi. Tutti quelli engage, quindi tutti voi. 8 danni. Ok. Cosa? Ah, io sono morto. Lo strain. 8 danni allo strain. Sei svenuto. Sì. Ah, sono a 0 di strain. Gli cadi davanti a Salla come avevi promesso. No, perché cado anch'io. Oh. Oh, cazzo. 8? Catta. a tutti quelli vicini. È stato un onore. Vabbè, a sto punto comincia a bombardare da sulla nave. Scusa, come fa a fare 8 danni a quelli vicini? Che cazzo di granata è? L'hai bustata? No, ma di strain, eh? Appunto. C'è scritto blast 8. Magari fossero stati solo 8 danni. Agli engage. Ah, blast 8, presente. È praticamente tu fai il numero che leggi. Tutti i personaggi engage con il bersaglio soffrono 8... Ah no, scusate. Sono due vantaggi che non ha fatto. Oh, quindi mi sono buttato sulla granata per coprire i miei amici. Esatto, tipo. Ti sei buttato sulla granata. Prego. E niente. Ah, capito, esplode anche la nave. Se avesse fatto va bene voler ucciderci, ulteriori vantaggi avrebbe avuto. Per due vantaggi. Tanto Metz muore il giorno dopo ucciso da Sal. Sì. Così non morivate il prossimo video. Ritorno su. Quindi adesso... Io sono morto, anch'io. Cannone, anch'io. No, sta ancora. Ci sono 11 Wookiee. Vai, uno è morto. Ne hanno agiti due gruppi. No, due hai detto che sono. Uno da tre. Uno. Sono 11 sciami di Wookiee? No. Ah, e allora però sciami poi non è la parola esatta. Però gli sciami erano da 5. Funzionano come se fosse Giulio, ma quando noi ti abbiamo chiesto tipo quanti buchi ci sono in questa base, no, tu non ci hai detto tipo 20 e ne abbiamo incontrato già 15. No, sì. Ho detto variate decine. Mamma, non stare in cima. Variate decine da 20. Decine. Diceva, variate decine non significa 20. Sì, da 20 decine. Anche perché la base è grande, ci stiano 20 Wookie in una 20 decine grande. Svariate di decine. Ho detto svariato di tasca. Da Giulio però, cioè, non possiamo aspettare sempre che porci comodi. Prima il turno di fine durato 6 anni. Perché gliel'hai fatto durare 6 anni. Va bene Giulio, allora sta a noi. Io non so che tanto. Non ho capito, c'era due gruppi da 5 di Wookie. È un gruppo da 1. Ah, è un Wookie più grosso, questo non l'ero perso. C'è un Wookie più grosso. Castle 2. Secondo me in realtà ogni volta che parliamo lui aggiunge Wookie, esatto. Aggiunge cosa. Ci è arrivato anche uno grosso, ok? I tre Star Destroyer. I gruppi sono da 5. Ce n'era uno in più. Hai presente meno. Super Mario quando combatte contro i funghi? E due Darth Vader. Quindi sta a Duros? No, Duros ha fatto, sta che mira più grosso. Vai. Allora. Un bravo Wookie un po' grosso che vede che può prendere il comando uccidendo il Duros. Ti ho un vantaggio. Tra catto e arci. Vai cacato. E fa autostrade a tutti. No, di vita ne ho 13. Era cazzo dei nuclei. Di strength. Mi sono beccati con la balestra. Questa è una particolare balestra strength. Ha fallito. Ha missato. Fa schifo. Sì, ma con i due vantaggi infligge 9 strain a voi. Non si sente niente. Aspetta che c'è. Con i vantaggi ha colpito il pannello dell'ascensore e vi manda giù. Ciao. Quindi come il Duros. Cosa vuol dire che è in copertura? Che gli ha come un, mette dietro una console. Come me, anch'io sono in copertura. Una volta te l'ho spiegato, però. Sì, mi aspettavo un chi è in copertura. Io. Anch'io vai, sono sta in copertura, Arce, così che sta a noi. No, sta ancora loro da fuori. Da fuori cosa? Il cazzo. Dai, ammazzalo pure. Abbiamo sparato. Grazie, ragazzi. Abbiamo visto tutti su questa nave. Beh, ho capito il caccia. Ho capito. Caccia che silueta. Gli farà un male boia, però. Cioè... Il caccia che silueta. No, non puoi schiaffarlo su di noi, Arci. Basterebbe schiantarlo a terra, però. No, sarebbe no. Già la base. Basterebbe caricarlo di forza dentro la nostra nave. Se il momento non va al caccia. Silueta 4. No, 3. Colino, eh. Ah, ecco, te l'avevo segnato il caccia da lancio. poi veramente... Sì, ma non sono vicino. No, però se dovesse sì. Avvicinarsi... Oh, ci stava una cosa vabbè, tipo... però mentre passa non riesci, immagino. Ci sta tipo Sceo che fa... Sì. Piloti hai il caccia! No, ah no, scusate. C'è la distanza giusta, sì. Torretta sparate. Cioè, se si ferma sopra di te, sì. Ma visto che è un caccia... viaggia. Cioè, ti passa di fianco troppo veloce, non fa in tempo. Ci sta inseguendo, ci sta sparando da dietro e... Cioè, ah, tu sei sulla nave? No, perché sì, sono funzioni diverse. Ma no, beh, sono esageriando. Cioè. Beh, c'è anche la distanza. E sì, ma una lì. Distanza a cui lui ti può sparare, che ne so, engage o short per una nave. Non è short. Per esatto. No, però magari è lunga per me. Sì, ma tu lunga. Cioè, tu lo puoi spostare se sei sotto. No, se vuoi metterti sulla torretta con questo costume. Però devo spendere punto. Ti metti su quella torretta con questo costume e fai... quando passa il caccia ti lanci e poi boh, lo muovi. Vabbè, per questo turno il caccia va solo in volo. Tu ti noti che c'è un caccia. Okay, lo vedi, quindi. Lo vedo proprio... No, lo vedi sullo schermo. Sullo schermo, ok. Lo comunico via comlink. Tocca a noi. Ciao! Sparo! Morti, uccidi Duros. Il caso... Ok, com'è la situation? Cioè, quanta gente c'è alla stessa distanza? Di abbatterlo. Short, chi è rimasto? Short... Ma stato un attimo, ce lo leggiamo tutti insieme. Allora, posso fare prima io? Secondo me basta. Sì, Duros. Vai. Non lo so, proviamo. Gunner di agility ne hai. Ci proviamo. Non so se. Clippa pure se vuoi. Se prima conviene che. Voi salite. Noi saliamo. Lan. E poi l'affrontiamo. Paura il conflitto. Quanti ne clippi? Cioè, quanti. Punti... Se in questo turno riuscite a liberarvi. No, capito. E a scappare. Ok. Altrimenti vado. Sì. Allora sono tre. Per sprecare due conflitti. Allora, okay. Ora siamo due. Abbiamo due flipper. E tiro via il Duros, il Wookie grosso, e due dello Shami. Ok, non puoi, perché devi farmi i tiri diversi. Ci sei diversi? Tu dire? No, tu fai un attacco. Cioè, il tuo lanciare le cose, tu fai, lo prendi e fai un attacco. Cos'è che non lo può fare? Sì, questo è in copertura, gli altri no. Quali? Due non li vede bene. Beh, allora vabbè, flippa non vedo bene. Il Wookie e l'uno. Allora, scusa, flippa... Beh, scusa, allora usane solo due, uno per il Duros e uno per il Wookie grande. Giusto? Perché? Non ho capito. Ci sono in copertura, cioè, o li vedo o non li vedo, non è che... Li vedo. Non può fare due tiri diversi? Se sono in copertura, tu cosa vuol dire per me? Ah, tu non... Perché io ti vorrei prendere potere... un... Non puoi prendere uno Wookie. Quindi o usi il potere sugli Wookie, o ah, no, è questo il problema. Sullo Wookie grosso e il duro. I Wookie quanto valgono? Quanti sono? Il gruppo. Il gruppo ce n'è uno da 3 e uno da 5. Quindi quello che lui potrebbe fare è prendere un gruppo da 3 e il Duros, per esempio. Sì, ho il gruppo da 5 e il duro. Sì. Fare il gruppo da 3 e il Duros. Così. O comunque o se no fai due grossi, cioè, o faccio gli sciami o quelli singoli o fai lo sciame. Ah, ok. Faccio lo sciame, lancio fuori uno sciame. No, caccia fuori i fili. Però posso fare uno sciame da tre e un altro di un altro sciame. No, caccia fuori i fili, caccia fuori i fili. No. No, caccia fuori due fili. Usane solo due, fai due conflitti e caccia fuori due fili. Così. Secondo me è la cosa più. Allora lancio fuori due fili. E tu ammazzi gli sciami. Però anche ci riesci, però. Vabbè, in ogni caso. Vabbè, mira le finestre già rotte. Vabbè, certo. Quello, vabbè. Così non hai... Quindi... E possibilmente non tirarli sulla nave, grazie. Comunque li muovi, giusto? Allora, Che comunque già vuoi. Ti ritrovo. Tacca tipo sul cruscotto. Viola. Allora. Una volta per sessione posso rimuovere due neri da qualsiasi tiro. Non me li tira sul parabrezza. Neri. No, non i neri. Esatto. Arci, spazza tutto. Spazzali tutti! Spazzali tutti! 4, 5, 6 successi e basta. Giù! Voglio vederli volare! Mamma, voglio vederli volare! Pozzo della luna. Ci sono tanti. Siete morti. Per lo Wookiee devi tirare anche uno rosso. Retroattivo? Vabbè, aspetta, non rimane, mi sto aggiungendo. No, non è un... no, piuttosto. Oh, piccolino, inoino, per dire, non è che... Col mio... Abliva, cantare! Togliamolo meno, però! Abliva, anche schiash to the tail! Ok, non riescono a resistere. Però ho visto dei gran vantaggi, quindi lo fanno in grass, volano in grass. Quindi vanno giù. Tu li butti giù. Dove c'è anche la metà della rotta. Ok. Luki si appende alla nave. Cioè, la nave è davanti? Sì. Mi sono affiancato alle... Dai, cos'è? Ma culo! Ma buono, fa culo! No, va bene, buona, buona massima velocità, vai per guida! Giù! Anzi, allora, anzi, meglio, schianta la nave, che la così, così, così, quindi di fatto loro volano indietro così e si aggrappa con cosa? Anzi, Sceo, meglio, schianta la nave. Sembra un ottimo piano. Se vado... Chi va l'autodistruzione? Burro invece è morto. Grande! Beh, almeno ti lascio più morbido contro la nave, no? Ma quindi è duro. Ah, dice, il duro si è arrivato prima, lo Wookie ha schiacciato il duro. E il Wookie si prende 5 danni. Cioè, vabbè, sono... 5 danni, così lo sei tranquillo. A Sock 6. Ma quant'è la nave da dove c'è andato? Cioè, con un salto torna dentro? Se fa una buona prova. Sì, adesso ti sposti, vediamo la buona prova. Che... No, no, quanto raga, devo... adesso ci vado io su quella cazzo di nave. Basta che fa un barrel roll, no? Sì, come posso andare io? Adesso li metto a posti miei. No, aspetta, vai, posso andare io? No. L'idea... No, quanto è lontano la finestra e il tizio sulla nave? Difficoltà 10.000. Forse mi troppo figo. Quindi se io salto di fianco a Vez e passo dalla finestra e vado sulla nave, la distanza è media. È meglio dall'ascensore alla finestra. Bene, vado. For sleep. Roccia. E quel cazzo di... sul tetto della... Vabbè, ora salla che era una merda. Ah! Però magari Salla, se sei veloce, becchi il duro in caduta libera. Basti! Prima che tocchi il suolo. Dai, è arrivato alla finestra. Io mi ero messo in modo che con un salto normale si arrivava sulla nave. Tre neri. Flip, abbiamo dei light side? Sì, li abbiamo. Anche secondo me. Però, ora ne abbiamo uno solo, però. Infatti, non ne abbiamo più tantissimi. Penso la prova di sciogliere, diciamo. Lo colpisco. Sì, Giulia pieno di cose, sicuramente farà, farà mettere dei rossi. Tu salti sulla nave e poi no, colpisci la Giulia. Esattamente. Un dito. C'è un dito. Ah, devo fare il negozio. Quattro... Dito non mi serve fare il negozio. Roll. Bam! Sei successi e 3 vantaggi. L'artiglio. Vabbè, aggiungi 2 azzurri. Sì. Azzurri. Ma non me li fate aggiungere? No, perché lui è così, però anche uno rosso. No, prima no, dico per il tiro di carta. Presente che gli avevi dato dei neri e degli azzurri per noi? Non me li dato? Sullo sciame. Sullo sciame, non era. Ok, i vantaggi diventano 6 e i successi diventano 5. Minchia. Quindi vabbè, sono... Come minimo cade. Comunque. Sono 11 danni e l'ho critto 3 volte. Quindi è un critico con un più 20%. E spero che muoia quel maiale. Vabbè, quantomeno cade. Roll. Ma dove, porco? Si aggrappa sotto. Se gli vai, falla. 33%. Vabbè, non devi, ma gliene fai 3. A me spiace la ragazza. No, è un, cioè aggiunge il 10% tutto il resto. Non dirlo, sono critici. Critici. Ho capito, aspetta, ma ogni critico lo devi tirare. No, prende un più 10%. Se no sarebbe troppo. Non lo mai. Vabbè, un 33%. Cos'è il 33%? 33%. Non so cosa sia il 33%. Spero sia tipo Athletics, muore. No, stunnato. Oh! Ok. Perde la presa e cade. Scusate, sono Pau anche quando mi nascondo dietro Vez. Ma la nave è la nostra, che non mi sono neanche chiesto la cosa. Sì, è la vostra. C1, apri la nave. E che parte? Abbassa la candela. L'altra leva. Scenda a tavo. Sì. Sì. Sì. Facendo una cosa anche super tamarra, tra l'altro. Sì, molto coreografica. Più che entrare nella nave, perché non mandate quel cazzo di messaggio così scappiamo tutti insieme? Ah, credevo pure salto su un'altra nave. E questo? Scusami. Ventri, 11 Wookie, solo Wookie grande. No, 10 più 1. Una solita. Vabbè. 10. Ci stavo. Generale, come si chiama? Cos'è? Si chiama... Guarda, dietro lo specchione. Quancia. Il nome suo. Sì. Gli ho dato questo nome. 10 minuti sprecati nella mia vita per creare questo personaggio. Tu. Beh, è stata una bella fine comunque. Il tuo diario. Meglio di quella di Duros. Ah, ma era quello grosso, quello che è morto male. Ma Duros non l'ho creato, Duros l'ho già fatto. Tipo, è stato quasi più nobile alla fine di tempo. No, anche quello... Ma scusa, chi è che è morto male? Il Wookie grande che ha creato Giulio in un pomeriggio. Ed era esatto. Quell'appeso. 145. Sì. Vabbè, Duolo. Però è morto in un modo particolarmente figo. Sì. Mi manca... Vabbè, ti mancano... Hai visto Vettel? Sta cosa? Mi mancano... Sta un altro di voi. Cazzo è? Io posso sparare finalmente. Ho preso in Giappone. Mi manca sul guardo. E che è rimasto? No? Così era... Ah, io non ho mai beccato. Questo è uno strago. Però lei non l'hai neanche visto. Hai visto stagista nella palestra. Tre a short e gli altri in mini. Tre a short e gli altri in mini. Ascolta, sono uno sciame, quindi io faccio un tiro unico per lo sciame. Vedete la scena? Sì, sì, è uguale. E a medium sono due sciame. Lì. No, uno sciame solo da 100. Sì, sì. Da di 300. Sì, sì. Quindi tira, posso... tolgo l'autofire. Sì. Tolgo l'autofire perché non posso fare uno o due, giusto? No. Belli modi. E quindi non faccio l'autofire. Vabbè, sono arrivati da poco, no? E tiro quelli a shot. Cioè, puoi comunque farlo perché sono solo nelle uova, quindi... Ah, sì, solo nelle uova. Ah, beh, quindi ci vuole tempo. Hai detto le uova giusto. Una buona idea. Ma non c'era tipo la pagina con le statistiche proprio, no? Non ricordo male, lo sto inventando. Va bene, e a questi ho il nero, il boost, non questo non è che hanno il boost, quanto... questi, va bene. Non c'era questo diario, è per l'accurate e ah, sono successe. Le ultime cose, esatto. No, sì, mi ricordavo quello. Ci sono i premi, gli achievement, cioè quanti ne hai registrati. Che non servono ancora, però faccio un trio. Ecco, quello, è bravo, quello. Quanti? Non credevo che fosse così. 10.000 porca troia, sono e poi ci sono un successo, un trionfo, ah no, due successi, un trionfo, quindi tre successi di fatto, tre successi, un trionfo e due vantaggi. Minchia. Quindi 10.000 e faccio un colpo, sono anche vicini, quindi sarebbe 13, quindi più 2 più 1, quindi sono 14 più il 5, quindi 19 a 11.07, sono ancora vivi. Sono uscito praticamente 19 e non è uscito in quel periodo. Sì, sono ancora uscita l'app ufficiale. Allora uso per fare un altro colpo l'auto autofire e sono 14. E poi c'ho il trionfo e il trionfo su che gruppo hai sparato? Quello su quelli vicini. Quello da 3 o quello da 5? Quello da 3. Che erano quelli con le sfighe o era l'altro? Era l'altro. Il trionfo potrebbe essere che gli salta l'arma. Fai un critico, muore. Ah, allora critico e... Grazie per il suggerimento. i minion, se gli fai un critico, è uno in meno. Ok, va bene, quindi ne ho ammazzati tre di fatto. Sì. Ah, quindi ha eliminato il gruppo. Sì, sì. Okay. Allora, io apro la nave e faccio entrare lui. Arriva la Esatto. Non farlo, spara al cazzo. È ancora lontano. Posso salire sulla nave e poi spariamo al cazzo? Cioè, il concetto è che mi fate scendere dal tetto, il resto poi. Salla, il concetto è che. Aspetta, Salla, il concetto è che in questo turno, se voi mandate la comunicazione e scappate da quella stanza, salite tutti sulla nave, entrate e andiamo a battere il cazzo, già tutti insieme, senza dividerci. Sì, sì, l'importante è che tu non faccia manovre strane che io casco giù. Io ho detto che apro per farci entrare. Ah, manovre reattiva! Io apro e tu entri, poi aspettiamo loro e partiamo. Apri e il prossimo turno. Sì, sì, sì, questo è quello che vogliamo però fare. Però intanto puoi sparare forse un colpo di... Il caccia non è lì, deve ancora arrivare. Ho visto che si sta avvicinando. Che altre cose può fare? Può prendere la mira? Ma non lo vedo, l'ho visto solo sui radar. E tu avvicinati al caccia che ci salto sopra. Esatto. Il punto è che lui sta puntando anche verso di voi perché si è avvicinato così, voi entrate da lì, non può essersi avvicinato da dietro perché sennò voi sareste tutti inceneriti dai motori della nave e quindi la sua visuale non può sparare. No, beh, lui volendo potrebbe essersi anche avvicinato dal lato, sai che ma va bene, dai rega, apre la porta e basta. Comunque, a prescindere, lui credo che abbia controllo su una cosa che sparasse avanti e dietro. No, per realtà no. Si deve andare a uno. Ah, ok. Ci può andare giallo se vuole. Da dove sono io posso andare nella nave? No, non ci arrivi. Arrivi alla finestra. Arrivo alla finestra. Sono ancora 5 buchi, quindi posso muovermi e sparare agli buchi. Ok, le brigio. Allora faccio così. Questi sono i tuoi dadi, giusto? Mi avvicino alla finestra. Non voglio rischiare di mischiare. Servono quelli verdi. Non usare i dadi del master. Portano 5 verdi. Portano sfiga i dadi del master. Io al Goblin un anno fa ormai dissi: ehi ragazzi, mi potete fornire? Sì, lo torniamo. Difficoltà. Ti avvicini, quindi vai a short, quindi uno. E loro avevano le sfighe, giusto? Sì, hai due azzurri. Due successi e due vantaggi, quindi sono 11 danni. Poi due vantaggi. Mi prendo R2 non venga considerato. Sì, potrei prendermi. Posso prendermi uno strain e dargli un nero se mi spara. No? Quindi sta allora. Allora a questo punto attaccano. E attaccano. Sempre il intanto sul radar si è avvicinato il cazzo. Si guarda a caso ancora. Cosa fanno? Parano? No, corpo a corpo. Scusa un attimo, nel turno prima uno ha cercato di attaccare la nave di Shea mentre l'altro ha fallito. Io ho fatto così in quel momento. Ah no, piano. Prima che attacchino loro. Prima che attacchino loro. Vedere cosa sono. Salva. Scusa, Salva. Sì, non te ne frega un cazzo. No, prima di quello, scusa Giulio. R5 riesce ad arrivare al terminale. Sì. Può partire con la comunicazione. Sì. Una prova. Sì. Cosa devi fare? Computer. Se volete tiro io, cioè, per vicinanza di... Nella Vez però, allora c'è... Cosa devo fare? Ma smetti di chattare con le tue figlie. Posso andare in bagno alla strada? No. Ci sono porte chiuse a chiave. Sì, c'è una porta chiusa a chiave. Allora, c'è seriamente una porta? No, c'è la porta, la chiave già l'avevo trovata. Sì. E l'hai lasciata nella porta o l'hai... L'ho messa dentro e l'ho buttata fuori dalla finestra. L'ho rimessa fuori dove era prima. C'è chiuso qui, per sempre. La chiave gialla, giro a sinistra e bagno. Computer strap. Cosa vuol dire? Chiudi la porta, catta. Ah, 3 vuol dire che ha 3 gradi sì. In computers. Sì, quanto hai in intellect? Computer strap, intellect. Quanto intellect ha 2. Che merda. Quindi tira 3 gialli. Sì. Ha solo 2. In intellect. Sceo ha sostituito te per tipo 20.000 episodi. Sì. Tira 2 gialli e un verde. È inutile che mi insulti. Esatto. E allora cosa gli serve avere 3? Se avesse 5 come ho io, tira 3 gialli e 2 sì, verdi. Ok, tu ti senti figo, ma... Vabbè, ok. Scusa, no. Scusa. Ah, ok. D'accordo, ho capito adesso. Tranquillo. Cioè, il punteggio e 2 viola. Cioè, non importa se tu sei più alto o più dotato. No, ho capito esatto. Ho capito il concetto. Tu ne tiri 3 in base al punteggio, il punteggio più basso e il numero di gialli. Anziché... Ha fallito con un insuccesso, ma ha anche 3 vantaggi. Allora, cioè, gli fallisce nel senso che non riesce a far partire la comunicazione. Cioè, la cosa che lui prova a fare è far partire la comunicazione. Quindi fallisce la situazione. Ok. Riesce però comunque... Non azzecca il codice per entrare. Riesce comunque a capire dove inserire la chiavetta... Ha individuato il computer principale collegato direttamente all'antenna principale. Può avere sì, ha blu. Hai prossimo. Detto che ce n'erano diverse. Quindi ha 2 blu il prossimo. Vai. Stupido troia. 5 Wookie e mi ha detto attacco in ovvezza. Dodge. Doppio. Quindi 2. Sì. Ha 2 doppio più upgrade. Cioè io ti upgrado di 2, non so se questo vuol dire 2 rossi. O... Sì, perché sarebbero 2 viola di base. Quindi loro hanno 3. In realtà non è che. Speriamo usare gli straight per farsi cose. Hanno 3 gialli. No, fai una foto col cellulare del statista. Un trionfo, 2 successi. Ah, che bello. Un trionfo, ma come? 6 vantaggi. No, un trionfo, 2 successi, 6 vantaggi, devo tirare i 2 rossi. Direi che non finirà bene. Scusa, ma cosa stai facendo? 2 successi inutili. Vabbè, cancellano i 2 successi. Sì, ma comunque ancora quanti successi? Solo il trionfo? No, solo il trionfo. E sei vantaggio. Cancella il vantaggio, il successo del trionfo? Sì, non un trionfo. Quindi rimane quindi un trionfo, sei vantaggio. E 5 vantaggi. Quando c'è il trionfo, ma viene annullato il successo del trionfo? Loro non riescono a colpire l'avversario. Però succede una roba fighissima, loro vantaggio. Ne ho ucciso uno scemo. Ho preso il fucile di Betz. Sapevo, ascoltatissimo. No, però caricando travolgono R5 che... No, caricando. Preferisco Betz di R5, dai. Mi sono perso qualcosa, non ho capito. Ma Betz ha sparato quanti ne ha uccisi, Betz? Sì, ma prima, dai. Uno sciamino di 3, quello okay. Sciolto. E gli altri 5 avanzati, giusto? Sono avanzati contro di me. Sono avanzati con cosa? Con i loro piedi. Li sanno muovere entrambi così? No, sono andati in corpo a corpo, non l'hanno, non l'hanno colpito. Io perdo la che sono un po' più in verità che semplici bastoni. Ma un regalo, come sono... Cioè non l'hanno colpito ma hanno travolto R5, la chiavetta è rimasta inserita. Sì. Cioè non lo so, decide Giulio in realtà. Posso tentare da dove sono? L'ho vista la scena. Ma sei nella nave, sì, no? Sei dentro la nave. Ah, vedi. Posso tentare, come ho fatto prima, entrare nei sistemi e visto che la chiavetta è già inserita, lanciare quel messaggio. Ma non sta... Ah no, sì, sta tutti in... Quando sta a noi, non lo so. Scusami. Aspetta che ti spara. Ah, ok. Forse non avrò modo di farlo. Infatti, vabbè, Reason forse sempre, dai. No, però in realtà effettivamente abbiamo bisogno di Cioè, da qua dovremmo cercare di spazzare via sta base, nel senso di aprirgli tutte le cose. Questa base che silhouette? Gli scudi, eccetera, se hanno scudi. Cioè. Mm. Come si chiama che da solo siamo? Kashyyyk. Kashyyyk, che silhouette ha? Sei uno superstar destroyer. Sto scherzando, Giulio! Giulio, mi sta che lo caghi! Merda! 20. Pensiamo peggio. Altri soci? 20 o 30. Altri giri? Pensiamo peggio. Infatti pensiamo peggio. Una vera verità esponenziale. Abbiamo un sacco di pulci, un po' come questo dei globi. Cioè 20 persone equivale a un pianeta, quindi. No, sì, è esponenziale, no. Ti appena detto. Ah, scusa. Un superstar destroyer è... Silhouette 9. Ah, okay. Okay. Stanno okay. Okay. Di caccia e migliaia okay. Di persone. Cioè, tipo, sì, Silhouette sì. 4 non è come 4 persone. Cos'è Silhouette 4, per esempio? Una montagna. Ah, ok, ho capito il senso. Questo, cioè, un caccia è Silhouette 3. Oppure, no, vabbè, più grande, una nave, è tipo la vostra nave Silhouette 5, ma dentro ci sta un caccia, ci state voi tranquillamente. Ok, quindi l'X-Wing non si alza in volo, si avvicina, si arrendono. Questo è gli X per la sega. Saltagli sopra. C'è una specie di credo sia una specie, c'era la copertura tipo calzone. Salla è ancora sopra, giusto? Che ha tagliato sopra. Ma già la patata? No, calamari. No, secondo me è la pasta. Vedi? No, ok, ma quelle cose gialle dentro. Forma di varesino. Secondo me è una pasta. Quanto è lontano X-Wing? È una pasta? È tipo tagliatelle? Ah no, ma tagliatelle, una pasta, è una pasta mista, una pure pasta. Che cosa? Cosa state facendo? Ciao! Ciao! Abbiamo un ospite. La telecamera della diretta è l'altra. Sei in diretta, puoi parlare qua. Sei in diretta. Di una nave. Siamo collegati con la guardia di no, la telecamera è assistere. Sì, puoi sedere, cioè. Nella sedia. La sedia là. Prendete un costume e volevo dire una sedia. Giulio? Cosa vuoi? Che vuoi, Arci? Dai. La vostra nave quanti studia? Davanti, dietro. Tu sarà sei attaccato alla nave? Sì, è sopra. Dietro è aft 2. Mm-hmm. È in piedi sulla nave? Se non sono io a bordo. Sì. Fammi controllare. Benvenuto nella diretta. Grazie ragazzi. Praticamente stiamo combattendo sul pianeta di Yuki. Esatto. Sì. In realtà eravamo andati lì per fare una specie di missione, però è stato rovinato da un Jedi che ci ha fatto scoprire quello. Quindi il collegamento da Marsiglia, che ha cominciato a colpire uno a caso con la spada laser e quindi ci ha fatto chiamare. Tra l'altro l'unico più o meno che vi avrebbe potuto aiutare più degli altri, sì, l'unico esatto. Simpatico e... il classico PNG da non uccidere è stato ucciso. Non è andata affatto così. E quindi ora siamo in guerra con i Wookiee, stiamo fightando. Cioè siamo per conto di un ammiraglio dell'impero che è rimasto e vuole rifondare l'impero e stiamo cercando di aiutarlo nel farlo, ma cioè di guadagnare soldi in realtà. Non è proprio una missione da Jedi. Sì, esatto, però esatto, i nostri Jedi all'interno, però a quanto pare invece è propedeutico. Ok. Lo cosa stai facendo? Devo vedermi un attimo. Ma se volevo fare un investimento e non fare spaziale, che non pensiamo mai. Due, oh, è vero, che è complicatissimo. Una delle cose più complicate. Salla, tu puoi riflettere i colpi della nave che spara sull'altra. Ah, perché è successo che eravamo immaginati tipo una stanza con gli specchi con tipo una vetrata, no? Sì. Questi buchi erano tipo 15. E io ne ho preso quello e l'ho lanciato fuori dal vetro. No? Sì. Due capi. Uno è volato giù. Astronave, No, però tipo lui che non ha giocato la scorsa è rimasto sull'astronave, quindi ha attivato l'astronave per arrivare lì. Dalla vetrata, fuori dalla vetrata, quindi ne ha tirati fuori due. Uno è volato giù, l'altro si è aggrappato dopo aver saltato il vetro sulla nave. E Salla, il Jedi con le spade, si è fiondato saltando sulla nave per uccidere quello che era lì aggrappato. Quindi l'ha preso bastonate. Ora un caccia sta sparando sulla nave, perché c'è lui il Jedi in piedi. Beh, comunque io volevo che rispedisse colpi. Se può deflettere, dopo ce l'attacchiamo la nave lui sopra. Tipo sacca di sangue, sa? Non posso deflettere. Tanto lui è un Keldor, quindi in realtà tipo spazio, esatto, nello spazio cioè può respirare, quindi sì, ma no. Non provo. No, li prendiamo, li prendiamo altri 3 o 4, li prendiamo altri 3 o 4, li mettiamo. Una nave ha delle persone attaccate che è geniale. Sandra, un trionfo è un successo. Quindi? Perché ogni volta che tira Giulio c'è un trionfo? No. Ah, sì, è chiaro che se sulla nave ci sei te, la distribuiscono tutte sopra, le spese sono a carico tua. Ma cosa? Certo, è ovvio. Non schifo. Già che le piaro, volevo dire. Non cedo più un cazzo, spesso la testa da figlia. È come nuova la nave quando ce l'hanno riconsegnata, giusto? Ecco, dimmi. Maria Tazza. Sì, sì, sì. Sì, non è una nave nuova. Sì, sì, c'è un sorso da in piedi. Volete prendere questa? C'è una Heineken e una Bex? No. Non so, puoi fare una Bex e andare. Cos'è quella? È una tuba. Grazie. Non che si usa. Ok, lo Sembridge 6. Il turno si blocca su Giulio e su Sheldon. Anche non, non sto facendo niente. Anche adesso c'è la parte del combattimento aereo che è complicatissima. Ok, sono è un po' il problema 8 danni, anzi, sono 9 danni un che trauma. Ignorano il bridge. Ignorano l'armor. Quelli lì ci sei sotto tu, Cap. Ci stanno sfondando la nave? Sì. 9 danni, hai detto. Sì. Ma sala non così, è così sala lungo questo combattimento che... Cos'è? Sala? Sala tu. C'è sala in piedi sulla nave. Puoi saltare cioè, su un caccia, te? Conto. Gli ho chiesto a Giulio, penso di sì. A che, a che distanza è il caccia che si fanno sulla nostra nave? Short, ma del caccia. Distanza planetaria. Sì, planetaria. È tradotta. Sono due distanze diverse. Quello che voi avete... È... Allora, funziona così questo gioco. Capito, ha sempre 5 bande di distanza. Solo che un conto è il combattimento tra voi persone per terra. E un conto è il combattimento tra voi. La navi, ok. Ma il short della navi è un long meme? È un long, forse sì. Ma tanto tu non ce l'hai a long. Sì. Quando? Da sempre. Sì, da sempre, dall'ultima volta. Vabbè. Comunque sì, se Sheo va engaged posso saltare. Ah, più che altro il fatto che siano arrivati dei colpi lui non li sì, prende. Sì, infatti adesso secondo me c'è qualcosa. Sono dalla parte opposta. Lui è in piedi sulla nave. Sì, ma dalla parte opposta. E vengono sparati sulla nave che c'entra la sala che è sopra. Non ma sono dietro io, sono dalla parte della finestra. Sapra è sopra la nave. Questi siluri colpiscono la nave, ma non sobbalza la nave. Esatto. Ok, Sala, devi fare un test, mi spiace. Io torno dentro. Sono i tuoi amici, Sal. Esatto. È quello che volevo. Vabbè, ci sta. Vabbè, ci sta. Ti metto su un aereo in piedi, ti sparo dei missili e tu stai in equilibrio. Sì, sì, ma adesso uccido Vez, tranquillo. comunque è tutto arcio a dirlo. Io semplicemente ho tradotto quello che voleva dire. No, io volevo capire. Allora, hai un... Danno critico di severità 2, gli scudi diminuiscono di 1 in tutte le locazioni. Che cazzo. Vabbè, ma se ha comunque abbiamo speso tutto il nostro patrimonio per fare un'arma. Puoi fare che cade. Dove la devo schiacciare? Stiamo prendendo di scudo da un caccia di merda. Fai un test di agilità con 2 di difficoltà. Dove vado su danno Sala, non puoi fallirlo. Perché l'agilità è altissima. Cosa devo fare, scusa? Test agilità con 2 di difficoltà. Dai, rega, che rompicazzo. Non vuoi flippare, Giulio? Vabbè, ma magari... Ma se cade, muore. No, esatto, magari cade semplicemente lì. Cioè, non è che cade lì. Non puoi flippare e aumentargli la difficoltà, Giulio. giù! Stavo semplicemente dicendo un pensiero di Vezzi. Magari... Qual è no. Scusa, qual è la difficoltà che non ho capito? Due! Però... 22. Ah! Hai letto cosa c'è scritto? Zero... Che non è? Niente. Stai per perdere l'equilibrio, ma lo recuperi. Poi entra il Sudovez. No, la sinistra, ovviamente, arriva di gioco. Ha colpito la nave, colpo di me. Diciamo che non riesci a stare in piedi, ti siedi un attimo. Vabbè, capita questa roba. Cioè sono i dadi. È l'aspettazione che ha fatto. Scusa, tu hai aperto la nave in teoria. Così noi vediamo. Sì, era spettacolare se falliva e cadeva la nave. Con un trionfo. Questa applicazione la trovi sul bellissimo sito internet. Utilissimo. E poi il caccia vi sorvola e vi passa. Ok. Questo. Guarda, se hai i danni che li paga tutti i vari. Dice roll. Roller, dice roller. Dice roller. l'applicazione creata da Jacopo. Non posso Jacopo adesso... Dai, Giulio, hai solo il coso davanti, non è davanti a te. Che sta usando il digno, ma voi non lo vedete. A voi. Di nuovo, noi tutti da capo. Se siete in diretta su Facebook, posso fare come prima? Mentre siete sul podcast, cosa vuoi fare? Sì, non devi chiedermi il permesso. Ah, basta, faccio io. Allora ti ho messo. Boom! Non puoi farlo quello che vuoi fare. No, sto facendo fuori altri buchi. Non sulla nave. Non sulla nave. Quattro buchi schiato sulla vetrata di Shea. No, scherzi, lancio fuori. L'unica vetrata rotta è quella parte. Si aggrappano anche. Salla, tu sai, gli passo a Salla. Ehi, Salla. Al volo. Spostatevi che devo uccidere Vez. CD1, no? Scusa, guardali contro il caccia. Non ce la potrà mai fare. Ma tre successi e tre vantaggi. Sì, che può. Come? Che il caccia sarà un po'. Qualcosa mi sta per colpire. Posso fare? Come spara il caccia? Io lancio i Wookie che parano i colpi del caccia. Devo fare un cannone a successi e tre vantaggi. I tre vantaggi sono che non si aggrappano. Hai avuto fortuna, cadono. Hai avuto fortuna tu che hai fatto tre successi e due vantaggi e tre vantaggi. Appunto, hai avuto fortuna per un po'. Hai avuto fortuna loro che sono caduti e non sono finiti in mano. Grazie Giulio, esatto. Che sei così magnanimo. Grazie Giulio. Quindi non c'è più nessuno nella sala comandi. No. Allora muovetevi e salite. Ce n'è uno contro di me. Devo uccidere Vez per averlo detto. Vabbè, intanto chi è libero, se può, mandi quella comunicazione e cominciate. Nessuno è libero. Ok, mandate quello. R5 si è rialzato. No, R5 è un droide. È morto? Cioè, per personificare questo gioco, un droide. Non è morto perché è un droide. Sì, nel senso, non è un droide utile. È lui come quello. Non è al momento funzionante. Quello che caga cazzo. Sì, droide protocollare. È quello. Esatto. Che è come il mio bardo. Esatto. Allora, io sparo mentre voi fate i vostri giochini, sparo al tizio che è con me in engaged. Se è in engaged, io ho qualcosa in meno, giusto? Però Giulio, fammi fare questa piccola appunto. Se lui spara lui. Esatto, ma siccome io ho in linea d'aria dietro c'è la nave, ho il forearm grip. Sì, la nave di Shea. Sulla quale c'è Salla. Quindi se per sbaglio dovessi schivare la Wookie, sarebbe di schivare colpisca sacco, cioè, è molto improbabile. È molto improbabile, ma non impossibile. Visto che non tira un non tira un rosso. A meno che uno non flippi. Sì, o meno. Adesso preferisco distruggervi la nave con tutti quei grazie che ho. Speravo che Salla mi ascoltasse, invece non. Ascolta Giulio. Non stavo ascoltando. Un upgrade che ti ricordi mi diminuisce di uno la difficoltà. Okay. Quindi quanto aumenta la difficoltà di due. Di due, quindi ne ho uno invece di due, cioè ne ho, diventa due. E sparo, ho il coso dell'accurate e non lo so. Non faccio la faccia di Giulia che era inquietante. No, per quanti dadi tira verso te. Ho fatto due trionfi. Vabbè, però i trionfi sfruttali, fai succedere qualcosa. Tra l'altro nessuno svantaggio. Manda il messaggio. Sì, con due trionfi con una mano lo spara, con l'altra manda il messaggio, un trionfo, cioè. Quindi sono una cosa super figa. Sono due trionfi. Sì, esatto. Sparo il Wookie cade e clicca il tasto giusto per mandare il messaggio. Sì, che io posso. Esatto. Caricati spalle. Io ho sempre un vantaggio automatico che mi scordo. E i vantaggi che ho, che sono... No, ne ho uno. Un vantaggio. Posso usarlo per recuperare uno strain? Qui non vedi, ma ce l'ho di default. Ah, si possono usare così i vantaggi? Ah, ma non abbiamo preso gli 8 danni di strain. E nel momento... Vabbè, basta. Mi avvicino al coso col movimento. Ok, io dico a tutti in comlink, salite sulla nave e andiamo a caccia di caccia. Veramente, quando fai queste battute capiamo perché. Il fatto che entro nella nave io. È lo stesso, è una buona cosa. Salla entra. Arci ha già fatto, non hai ancora fatto il turno? Sì. Caricati in spalle R5. Io posso andare direttamente in cabina di pilotaggio. Ok, però prima qualcuno deve portarsi in spalle R5. E lo lancio io. Ah, cazzo, giusto R5. Oppure lo lasciate lì. Ma No. No, prendi, ma perché? Sì, prendiamolo. Prendi quanto cosa, devi dirci, Giulio, come funzionerà quei turni. Funziona come prima, prima caccia e poi... Vabbè, tanto non sono saliti in questo turno. Solo lui, cioè, per il stiamo salendo sulla nave, non riteniamo a scoprire gli spento, Wookie nelle, non ce n'è più, sono finiti. Ah, quindi prendiamo la nave e andiamo un'altra testa di ponte. E vado in cabina di pilotaggio. Non e... prendi R5. Prendo io R5. Prendo io. Ricordi che abbiamo pagato caro. Ah, e dopo... Perché non avete voluto vendere l'altro droid difettoso. Possiamo recuperare lo strain dopo l'incontro? Non ancora. È un'altra cosa. Riesco a chiudere la nave prima che Beth salga. Canta, questa è una missione per te. È una pilotessa professionale. Hai detto che stavi per vendere. Hai detto che volevi vendere un droide di pattuglia. Che... No, l'altro droide. Ora che sono a posto. Ora che appunto, sono esatto. Nave, le difese si alzano di 1. Quindi come se fosse come prima. Che mi dica. Quindi tipo ti siedi in braccio a me. Sì. No, vabbè, io posso andare alla torretta. Ma chi tocca ancora? A lei. Adesso sta cazzo. Ancora che spara contro la nostra nave? Beh, l'unica cosa che è rimasta, sì, cosa dovrebbe fare? Sparare. Mira la Jedi. È entrato. Cioè, delle due distrugge la nave, distrugge anche il Jedi. È entrato comunque lo Jedi. Non puoi avvicinarti, cazzo, così Salla fa l'abordaggio. Io l'avevo chiesto, ma non è stato così, quindi... Sono appena entrato, non ho avuto... Bene, apri il portellone magnetico e avvicinati a quella cazzo in nave. Ma aspetti che tutti siamo sulla nave. Non posso... devi cambiare nome, devi chiamarti Itanant. Se facessimo stato per remover un po' di dentro. Cinque Rega, successi. Vi farebbe comodo un TIE Fighter in più? Sono 11 danni. Ignoriamo. Che ignorano l'arma. No, stavolta no. Quelli prima erano torpedo. Ah, erano... Quindi meno 4. 7. Quindi andiamo a 16 su 32. Salla su quanti? 16. Sai, questo sarebbe 32. Una gran combo. E poi tu mi fai move e mi scagli in aria verso la nave. Io, mentre sono in riccia alla nave, comunque faccio move e la scalo. E poi mi riprendi su. In realtà. Noi dovremmo cercare sto Kyle da ammazzare. Kylo Ren? Sì. Vabbè, adesso intanto sei sulla nave. Ci dividessimo. Adesso non siamo saliti tutti. No, non siamo ancora sulla nave. Sala è l'unico che può dividerci. Loro due sono giù dalla nave solo. Solo voi due siete rimasti ancora da salire. Andiamo in te a cercarlo. Sì? Per me è un suicidio. Poi si blocca e rimanete lì per tutto. È un suicidio. Cioè, se incontrate anche solo altri 10 Wookiee, c'è caso che se fai un tiro storto sei morto. Sì. E se lo facciamo buono, però no. Vabbè. No, però potremmo bloccare sta sala e cercare dove cazzo si trova. Sai quanti exp sono? Se avessimo un droide giusto. Sala. Abbiamo bisogno di te, però. Scendo. Siamo ancora salta lì. Dentro. Io non devo più pilotare. Io salterei quindi... dentro, ma deve ingaggiare quello lì. Tu allora, salla. Conta che il close range tra le navi è più di extreme per voi. Quindi... Ok, facciamo test. Perché comunque lasciamo solo loro cazzo, due. In tutti i cartoni animati del mondo saltano sulle altre navi. Questa nave, cioè alla fine non è che serviamo necessariamente. Non è previsto un engage tra le navi. Cioè in realtà se volendo tu e lui. No, non posso salirci allora. Volendo, effettivamente, se io scendo, no, mi attacco al sistema, ci blocchiamo dentro la sala comandi. Questo posso farlo. No, ma siamo un bersaglio troppo facile per prima batteria. In realtà vagli sopra, che gli salto da sopra. Voi. Tanto quello che dice Vez è che siamo in due sulla nave, che siamo in cinque sulla nave, non cambia niente. Hai capito? Quindi, anziché essere tutti e cinque sulla nave... Voi due andate ad abbattere il caccia con la nave, noi tre intanto cerchiamo di individuare dov'è il tizio. Ok, e vi svelo anche questo arcano. Noi uccidiamo qualsiasi... Più gente c'è sulla nave, più facciamo danno. Sì, perché? Sì, è vero, però in... cioè, in tre dovrebbe essere. Anche una torretta. Ma se sono in due. Dovrebbe essere in tre, credo. No, e allora ci può essere un pilota, un copilota, due alle torrette, sono già quattro. Uno che può dare i boost in cabina di pilotaggio, cinque. Va bene, allora facciamo una cosa per volta, mettiamo sta qua e poi torniamo per il tipo. Allora sì, non sapevo questa cosa, pensavo fosse indifferente. Allora sì. Va bene, ingaggiamo il combattimento spaziale. Sale, questa sala, devono ancora salire. In questa sala che possiamo mettere, arriva solo con l'ascensore, c'è anche la scala. Sì, spaziamo l'ascensore. Adesso possiamo sparare con la nave dentro la sala. Posso prendere l'ascensore? Perché? No, ma non vogliamo. Sì, puoi prendere l'ascensore. Che ti frega. No, no, però vorremmo che io vorrei chiudere le porte. Puoi stradicare l'ascensore. Solo che non so se lo posso, se lo so fare. Ricostruiranno. Beh, vabbè, basta dare un colpetto tipo all'antenna. Poi sono volati. Non lo so. Ti volevo prendere l'ascensore, che è comodo. Va bene, prendi l'ascensore. Ma lo volevi prendere fuori? Sì. Riusciti a stare un turno che arriva. È molto rischioso. Può tornare utile. A pararci. Tanto possiamo tornare una volta che abbiamo fatto la pista. È che volevamo segare l'ascensore e chiudere le comunicazioni. Prendo l'ascensore. È più comodo delle scale. Lo tiro, ma non ho... Però, sì. Non ho però... Cioè l'ascensore è il problema minore perché può distruggerlo lui. No, sto prendendo fuori, che mi serve? Per le comunicazioni, non lo so. Che se arriva qualcuno su, capito? Cosa tirare? Come sta ad arrivare su se lui prende l'ascensore? Forse. Magari c'è qualcuno dentro. Almeno è molto più ostacolato. No, no, devi vedere se si attiva il potere. Ah, però non devo colpirlo. No, non devo. Non, finché non lo lanci. Sì, boom. Okay. Vabbè, allora stacco anche la 5 bianche. Finché non lo lanci, tutti i tuoi dadi forza sono impegnati a tenere l'ascensore. Non puoi usare. Non tengo mica su. Allora, lo stacco e l'appoggio qua vicino a me. Cioè l'appoggio lì. Ti serve un ascensore per la nave. Ah, aspetta, però giù dalla vetrata. Non ci passa l'ascensore dalla vetrata. Vabbè, dai. Ci passa, cosa vuoi fare? Ci sono dei buchi. Volanti. No, cioè, giù. Sì, delle navi, dei buchi. No, le navi sono da un'altra parte. Ma spara contro il caccia, puoi fare tutto. Non posso arrivare al caccia. Arriva al caccia. Allora prendi il caccia. Arrivo solo sulla nostra nave. Vabbè, l'appoggio lì vicino comunque. Va bene, saliamo e partiamo. Esatto. Prendo la chiavetta prima di... Sì. La chiavetta la piglio. Sì, io prendo una torretta a sto punto. Io devo sparare, raga. Non ho gunnery, però agiliti. Prendi l'altra torretta. Come siamo messi? Adesso abbiamo un cannone in più. Siamo tutti 6 su. No, io ho staccato l'ascenso. Sì, però... Con un movimento. No, con due manovre ci arrivo. No. Per distrarre. Ma posso anche aspettarmi io, no? Posso anche aspettarmi qua. Oddio, da solo. Allora, chi è rimasto fermo? Allora, io mi ero mosso di uno, quindi ero arrivato alla cosa, prendo la chiave. Sono due manovre per arrivare alle finestre e poi salite con la nave un'altra. Quindi devi prenderti lo strain per arrivarci in questo turno. Giusto? Strain. No, con uno arriva alla finestra. Poi sì. Non può fare una non puoi fare, puoi fare l'azione, giusto, bravo. Per questo che sei... Puoi spendere strain per salire, no? Però tu arci non puoi. No, non può. Beh, io tanto che senso abbia, aspetto qua. Tanto che no, però scusa, la puoi usare per fare una manovra. Ma l'ha già usata l'azione, ha sradicato un cazzo di ascensore. No, una manovra può usare. Per fare la manovra in più, rega. Ma gli serve un 3. Fare una manovra e poi spendere 2 per fare un'altra manovra. Esatto. Ah, sì. Ma non gli basta comunque per arrivare. Ma arriva alle finestre. Gli serve una terza manovra per arrivare dentro alla nave. Perché, scusa? Beh, io ho fatto un'azione, ho salto l'ascensore. Faccio una manovra. Lo spostamento vale per me. No, con due manovre arrivi alla finestra. Due manovre? Ah, con due manovre arrivi alla finestra. Perché è medium. Ah, ok. Perché non può usare, scusa, se una manovra per arrivare e poi una per... Perché sono due manovre per arrivare alla... Sì, ma alla finestra arrivi. Con due manovre. Ma scusa, quindi io anch'io devo usare lo strain per andare. Tu non. Tu ti, no, col fatto che hai fatto il trionfo, hai detto che avevi attivato la cosa, ti sei già spostato. Sei io già spostato mosso. Più avanti. Sì. Quindi sì, devi usare lo strain per salire su. Questo voglio dire. Sì, sì. E quindi vale anche per me in realtà. Beh, però per me no. Allora aspetto anche lui allora in questo caso. Allora, tanto vale non spendere lo strain. No, esatto. C'era la roba che poi piccola parentesi, io devo andare, una cosa. Rimango come copilota così il mio ruolo diventa no, vabbè, tanto ha senso che quello però cazzo, il droide Ma non sali. Ma scusa, invece, l'idea è di abbattere il caccia e poi tornare. Visto che alla fine è rimasto lì. Aspettiamoli qua. Io aspetto qua. Tanto l'ascensore si è radicato. Tu aspetti qua. Ma anche tu se vuoi. No, lui serve per sparare. Aspetti qua. Aspetta qua. Che senso? Se poi noi decidiamo di andarcene via direttamente dal pianeta, non dobbiamo venire a riprenderti. Andiamo a però il droide andiamo a ammazzare tutti qua. Ha chiesto caccia e poi ripiglia lui. Forse, perché adesso abbiamo ordinato l'attacco. Allora, a Kyle lo voglio ammazzare. È una cosa personale. Va bene. Sì, è vero, dobbiamo uccidere almeno Kyle. Però tanto adesso ci sono i lucertoloni che arrivano. Il problema dei lucertoloni è che se c'è ancora il caccia in vita, li sega tutti perché loro non hanno delle navi da guerra per fronteggiarlo. Quindi sono inutili. Loro servono in corpo a corpo quando arrivano sul pianeta, ma se non ci arrivano sono inutili. Sai, dai, grazie lui a tu, no? Gli archetti. Mi sembra un limite, cioè, perché se la situazione precipita e decidiamo di scappare, abbiamo zitti un attimo, facciamo così. Vez sale sulla nave, Arci stai lì giù, spacchiamo quel cazzo di caccia, tanto scendo io adesso dalla nave, vado io ad Arci. Posto. Ah, ma non c'è però... più la discesa, quindi niente. No, che discesa, no, tu stai su perché... E cosa faccio tanto? Mi gratto le palle. Devi rimettere a posto il drone. Sarai in piedi con una spada laser sulla nave? No, credo che sia dentro. Sono già entrato. Entrato. Sì. Allora, quindi entro io e lasciamo Arci qui? Io ero per prendere anche Arci, mi sembra più sensato. Perché se decidiamo di andarcene... Perché magari arrivano degli altri caccia, arriva, dobbiamo scappare e ti abbiamo lì bloccato. Il problema è che c'è anche il droid. Vabbè, Salla comunque ha move, mi può prendere. O no? Non così lontano. Il droid quanto pesa? Cioè, per portarlo cosa bisognerebbe fare? 60 kg. Vabbè, vale, e Vez intanto fatto. Sali, tanto nel senso, intanto così spari. In carbonio leggero. Cumberstone facciamo 3. Quindi lui lo potrebbe prendere. Tu hai pochissimo Cumberstone, giusto? Cioè non hai nessuno in Cumberstone. Io lo lancio. Cioè... Beh, sì, esatto, lo tira. Lancio, con tutto il... comparato. Quindi cosa faccio? Aspettiamo di Arci? No, Vez, se sali, il prossimo allora, round puoi sparare. Allora, io devo sparare, per salire subito devo usare due strain. Quindi ditemi voi se volete aspettare altro. Cagami. Se però li usi, vai su e il prossimo round spari. Invece, se no, il prossimo round sei inculato. Va bene. Tu Vez, usali. Tu Salla, vieni giù con me. Sì, vengo giù. E ci lanciamo giù dall'ascensore. Se ho ancora la mia azione, ma non ce l'ho più. Beh, in realtà non l'ho usato. Ho usato lo scudo di strength. In realtà loro qua non possono salire, io non posso scendere. Non infatti. Sì, infatti non so perché siete rimasti qua. E non siete dei mai. Catta, aspetta un attimo. Ti avete accesso a tutto. Raga, ma siete... state delirando. Allora, se Vez sale e sì. Adesso il prossimo... Questo round non facciamo un cazzo. Il prossimo round Vez spara, Arci sale col droide e andiamo via. Ok, va bene. Quindi non vogliamo uccidere altra gente. No, andiamo via, nel senso ci fa atterrare e atterriamo su Kyle. Ok, va bene. Va bene, ragazzi, colgo la pausa per salutare. Ciao, Sceo. Sì, gestitemi come copilota, tanto è quello che avrei comunque. Sceo, prepara la gamba. Eh? Prepara la gamba. Ah, Structure Heroes. Giusto. Sì. Ci becchiamo giovedì dalle 7 alle 9 e mezzo. 8 e mezzo. È vero, dalle 7 alle 9 e mezzo. Esatto. È vero che anche lui li legge. Va bene, ragazzi. Buonanotte. Vado. Ciao. Ciao. Ho via libera. Sì. Devo usare, non so. Combinazioni, di prendere il lancio dove... No, no. Scusate, abbiamo fatto tutti il nostro round. Sì. Ciao, Sceo. Buonanotte. Sceo, cosa ha fatto? Ha fatto una pippa meccanica. Mi sono spostato di sedile e ho lasciato il posto di pilota. Non puoi fare uno scan. Per uscire tutto il calore da qua dentro. Sceo, cosa posso fare? Vabbè, intanto vai via, te lo faccio, li tiri a noi al massimo. Potresti fare uno scan per vedere se c'è qual tipo. Movimento dentro, gente dentro, cazzate del genere. Dentro la torre, dici? comunque intorno. Oh, lo posso fare? Diciamo. Non si avvicina il tizio. Sarebbe una prova di computer per due di difficoltà. No, questi sono i tuoi. La scheda. No. No. È tua. Sì. Con due di difficoltà. Tre successi e un vantaggio. E due, sì, tre successi e un vantaggio. Quindi ci riesco, mi dici se vedo uno gli dipende. Com'è la situazione intorno? No, è forte la taglia, fonti di energia e rilevi che dalla foresta si stanno attivando i cannoni. Ok. Ok. E i vantaggi che non vantaggi. Salla, in che libro è il vestito che ho addosso io, quello da Jedi figo? È quello che ha Giulio. Non lo so. No, mi sa che il suo è È Force and Destiny. Pagina. Dice che è solo quello lì. Ah, va bene, ragazzi. 180. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ti serve vederlo adesso? Ciao, fai fishing. Questa roba qua, se vuoi vedere solo come è fatto, aspetta. Voglio far vedere, voglio far vedere che con la questi spaziali. Ti serve? Far vedere? Questo. Sì, fa vedere che questo è il mio vestito. Sì, e quell'altro invece è il campanello che ho prima. Quindi adesso sta di nuovo a pilota a Zal. Zal. Sì. Si ricatta. Si gioca a Pokémon. Devo seccare. Ma ci ha sparato, scusami, lei contro di me due volte. Toccheranno ancora. Sì. Adesso vi siete tutti mossi. Puoi usare Sheo se vuoi. Una grande emozione. Sì, comunque come ci dice Sheo, si stanno attivando i cannoni nella foresta. Nella foresta? Sì, è appena trovato dei cannoni che si stanno attivando nella foresta, quindi a maggior ragione io me ne andrei lontano da qui. No, mi ci vorresti fare i poteri, cosa ha lui come buzzer? Il droide che cura? No, intelligenza, skill e computer. Mechanics, computers. Così però sei finito fuori dall'inquadratura. Beh, poi in pratica serve un hacker. Adesso poi ogni tanto. Vabbè, tu comunque di quello che vuoi fare, poi dentro in chat, tanto non è che lo usare, quindi lo... neanche lui lo sa usare. Meccanica, medicina, neanche lo sa usare. Quindi cura, sì. E computer. Perché è la cosa principale, fondamentalmente. E poi sei anche abbastanza bravo, non si sa perché, a sparare con i cannoni della nave. Che è la cosa che ci serve adesso. Ok. Poi vedi, i dadi si usano questi dadi che hanno il simbolo tipo questa esplosioncina tre qua. Tre successi e due vantaggi. Simbolo. Ma poi tutto questo era per la nave, quindi di... C'è questi dadi qua. Sì, dadi particolari. Quello è successo, l'esplosione. Il coraggio un po' mezzo strano, sono se mi cerchio storto, non un vantaggio. L'importante è fare dei successi. E insieme? Insieme è un successo e dei vantaggi. Però il numero di successi no, è nulla. La cosa peggiore che puoi tirare. Sì, perché con quella lì sono solo cose positive, capito? L'unico fail è il vuoto. Non mi ricordo, si fa... è il dado negativo, che come è pure si fa... a quello, ma fa quelle cose brutte. Il mirare si fa. Giusto. I triangoli sono i fallimenti, esatto, e quelli invece sono il volo. Si fa il mirare. Quelli me li tira solo di Isla. In che senso? Cioè, quali sono le cose che può fare uno che spara? Mirare. Spara. Il trionfo. In teoria potresti mirare, ma in pratica... Boh, qua nei nostri cannoni c'abbiamo queste cose. Sniper shot e true shot. In teoria tu potresti anche prendere la mira, ma non puoi perché devi, ti sei mosso, quindi dovresti fare sniper shot e true shot. Tu tipo sei skillato. Abbiamo preso come... Allora, più skillato, io sniper sei come dovrebbe essere come il mio, che vuol dire che puoi fare poi c'è una cosa in più. E c'è scritto target array advanced. Okay, allora vuol dire che se fai non puoi usare una manovra per aumentare il range, esatto, e la difficoltà. Cioè vuol dire... Vuol dire sono che sono altri, gli altri vantaggi. No, ci sono, sei. Quindi questo tiro mi dà 4. Cioè, quant'è la distanza di quello? A siamo a 25 su 32, ragazzi. Siamo per morire? Sì. Scusa, ma gli scudi chi li sta usando? 25 su 32 danni subiti? Sì. Ci ho sperato tre volte. Io sono giù dalla nave, vero? No. Comunque abbiamo anche un caccia, rega, lui volevo dire. Sì. Non sei tu? No, sono ancora giù. No, no, sei giù. Sono ancora giù dalla nave. Sì, se non sei salito sei giù. Sì. Pensa che non ci sa prendere il droid. Bene, tocca a noi. Sì, perché avete tirato. Sì. Tocca a noi adesso. Quindi è dentro col droide? Lui adesso. L'ho capito. Sì, c'è Kat, il droide No, l'altro droide, R5, l'hai preso. R5 siete tutti lì? Ah, sì. Tu sei su giù ancora. Che proprio nel round io non potevo arrivarci, quindi no. Quindi hai preso R5 e poi... Sì, ma ora state per esplodere, quindi anche non salgo. Sì, potrebbe essere un po' di... vabbè, io vado alla navetta e poi sparerei. Cioè, vado alla, al coso ai cannoni e sparerei. Aspetta. E... prova a darti un vantaggio, Vez. E abbiamo anche target array advanced, che non so che cosa sia. Se me la dai, te lo il turbo laser, cos'è questa roba che hai fatto? Toccata comunque da quando siamo alle elementari non hai mai imparato a scrivere. No, c'è una roba, c'è un mezzo cerchio. È il firing ray arc, vuol dire che può sparare a 360 gradi. Non è neanche una lettera, è un concetto. Non è difficile. Non sono mai riuscito a copiare un cazzo. Per dire che se vado io a quello posso sparare al coso in questo momento. Puoi sparare a 360 gradi. Ok, sparo a torretta. Voglio dire. Allora Vez, ti do... ho fatto allora un trionfo, due vantaggi, no, due successi e un vantaggio. Il trionfo non so come cazzo si spende per questo tiro. Non lo so, io quindi posso sparare? Sì, di sicuro ti do un blu. Allora, io so che di gunnery non ho niente, ma ho l'agility che sono 6 di verdi. Dai un blu anche io da giù. Vai, sei il migliore. Forse. Giulio, come lo spendo il trionfo in Fire Discipline? Qual è il blu? Cos'è che fa? Blu è questo qui. Che è un boost. Ha molti fail. Analizzo le tattiche dell'avversario. E quindi il posto del blu è il mio. Sniper shot. Vabbè, quello è se ha una distanza molto ampia. Ma non è un cazzo perché stanno parlando tutti di questo. Puoi dare un giallo al posto di un verde. Aspetta che non capisci. Ma in teoria gli do un blu però. Il true shot? Che cosa fa? Ditemi cosa tiro. Vabbè, non so che ti facciano queste cose. Se no, saprei perché. Sei verdi, spari? Sì, quello sarebbe il mio coso di agility che ho 6. No, scherzo, sì, ho 5. Allora dice. Avete già colpito sto caccia? No. Cioè, full, noi stiamo per esplodere? Siamo appena saliti, lui ci ha già colpito 3 volte. È un problema. Sì, mi ha speso tutta la nostra vita su quella nave. Beh, adesso scappiamo. No, vabbè, adesso io faccio la manovra che l'impedisco di spararci. Allora, io do, in teoria do un blu sia a Vez sia a Katta. Vez, puoi spendere i tuoi vantaggi, invece che fare altre cose, puoi spenderli anche per fare uno strain automatico come danno. Ok. Cosa tiro in difficoltà per colpirlo? Ci sono altre capacità di questo turbo laser? Catta tutta e tutto della nave. Allora, sotto il turbo laser ho scritto sniper shot e true shot. True shot cos'è? E non lo so. Ma in difficoltà c'è uno nero. Dove lo trovo sta cosa? Tutto questo perché siamo... abbiamo una nave, abbiamo preso 18.000 cannoni spendendo una marea di gold. Il problema è che il combattimento... abbiamo preso più di un anno fa queste cose, chi se le ricorda? Allora, true shot. Sì. True aim. magari questo è qua, non è qua. Ma non è scritto, se non è scritto né canoni nella pagina con tutte le cose da comprare. Quindi... No, può essere un talento oppure un'altra cosa. C'è il glossario con le paroline. Quanto la silhouette alla nostra? 9, 5. Sì. Io 7 HP. True aim o true no, shot? Per shot e true shot abbiamo. Quanti danni ci ha fatto con i colpi il calcio, capta? Il singolo colpo, quando ci ha conosciuto ieri. Dipende, se ci... Beh, più o meno 9. Quindi un colpo esplodiamo. Sì. Non ho idea perché non c'è sul mio manuale. È un vero capitano senza spese, però un vero capitano fonda no, vedrà che ce la caviamo. Non so dove possa essere. Sì. Sì. Comunque, visto che non sappiamo sparare bene con i cannoni, perché non fai attacchi in time di sono tornato. Esatto. Avevamo già provato a schiantarci contro una nave. Sì, una volta. Non è andata bene, mi ricordo. Vabbè, siete sopravvissuti, ma no, non era tanto. Comunque, rega, sa che andiamo in perdita. Okay. Perché? Perché riparare la nave con questi danni costa un barca di soldi. Vabbè, ci darai così il capitano Tron... elettrodomestici sì, brondi oppure deprediamo questo pianeta finalmente. Sì, questo pianeta è pieno di buchi e basta bellissimo viva gli Jedi. Ma non ormai sono uno Jedi, che vuoi, ma stai di per diventarlo però, ma non credo. Sì, no, vero. Rega, non lo so, sparagli e basta. Dice denti, ossa, non so cos'è sto true shot, rega, se qualcuno ha idea di dove possa essere. Aspetta, guardo su internet. Non c'è un indice. Esatto, come c'è un indice con le paroline che devo dare, sembra subito che ci sia. Qua. True shot. Dove? Non lo so. No, sta dando suggerimento. True aim, cioè true aim. Forse sarà true aim. Cerchiamo sto cazzo di cose, vediamo se cioè, tu non riesci a capire se scatta. No, no, esatto. Io ho scritto true shot. Ora allora, vediamo se catta è veramente rincoglionito come aim... sì. Io voto di sì. Fai un upgrade. No, devo trovare. Aspetta, cerchiamo il turbo laser. Anche lei, turbo laser. Non c'è nessuno che non ha mai letto in pagina. Perché io, secondo te, neanch'io. Dovresti iniziare perché. Hai letto la mia pagina dell'albero del personaggio. Fantastico. Il minimo indispensabile. Il resto ah, turbo laser, massi. Però sapete, diciamo, sapete già tutto voi. I ruoli, tipo il combattimento spaziale, che è una cosa che dovresti fare. Una roba infinita. Dov'è la tabellina? Vabbè. Hai trovato? Turbo laser, medium. True shot. Cos'è? Medium? Heavy? Light. Ma non ha ste cose qua, ha Breach 2 e Slow Firing 1. Che cazzo mi stai dicendo? Secondo me sono i talenti che ha cut. No, sono le modifiche che abbiamo fatto alla nave. Le cose che abbiamo comprato. Allora è ancora più complicato trovarlo. Dimmi come si chiamano queste modifiche. Allora, nelle modification, a parte l'hangar, ho il Target Array Advanced. Quello sì. Quello c'è anche nel mio. Intanto sono 5 viola. 5 viola per colpirlo? Minchia, scappiamo. Arci, tu rimani qua. Perché solo la differenza di stazza tra voi e lei vi dà 3 viola a voi. Minchia. Sì, ma in teoria ha tipo 10 punti ferita, quindi se glieli cavi bene. Sì. Dove sono le cose che si potevano prendere? Devo trovare questi cosi. Beh, io comunque ha paura ad avvicinarsi, ha paura che arrivi in ascensore solo da avanzare, sulla vetrata. Con i taggi cristallo sto da un ascensore a due. Dove può sono? Sparare da tutta sicurezza, non è dove che si viene avvicinato. Starship and Vehicles ha senso. Combat non ha senso. La customization dove sarà? Alla fine delle navi? Sì, in teoria alla fine della... Sì. Allora, ditemi quelli che si, come si chiamano quelli. Allora, target array advanced. Dov'è? No, questi sono i turbo laser. Sono le armi. Target array... Perché non c'è? Non c'è. Perché non c'è? Advanced target, target array. Mm-hmm. Targeting array. Allora, by train is good example, DDB, base modifier, additional upgrade, innate talent, sniper shot, innate talent, true shot. Aim. L'avevo trovato 26 anni fa, l'avevo trovato. True shot, ma hai fatto capire true shot? Che ne so, l'avevo scritto un anno fa, l'ho scritto IM. Miseria, dov'è True Aim? Dov'è trovare i talenti? Te lo dico io, True Aim puoi upgradare la, il tuo dado per far diventare giallo. Ok, e questo lo facciamo. No, facendo però usando strength. Come buono il pane. Lo faccio? Certo, ma devo 5 usare... viola non lo prendi neanche se gli cadi addosso. Devo usare due di strength? Uno di strength, due? No, è una manovra. Però? È una manovra? Sì, una manovra. Che posso fare? Oltre a Vez che spara, chi c'è? Anche lui che spara, no? Sì. Ok. Quindi o io, due. Dipende. Quindi, però io adesso... Tutti sparate, no? Sì. Quindi troviamo 5 viola, un nero, 4 verdi, sì, un blu e un giallo. E poi ci... adesso vediamo se funziona. Viene questo e cerca i turbo laser. Cerca i turbo laser, il no, cerca Breach e l'altro non mi ricordo cos'era, ma ce l'avresti aver scritti. No, quello di turbo laser non l'ho scritto. Sta scritto come true shot. Beh, è successo tanto tempo fa. Non so, posso io... Se volete ammirare, mi fare gnano, scrive a me. Al massimo colpisco Sal. Ah, devi sapere che il Jedi si mette bene. Una volta che stava fightando in corpo a corpo con un Sith. Non è una volta. Vabbè, no, io sto parlando del mio errore. Fallito. Ho preso un masso enorme per colpire il Sith, ho schiacciato solo lui. Sei fallito. Perché ho fatto tipo una specie di 1 negli 20. E invece lui due volte in un fight, allora, in successo con spade laser, ha sparato con il suo mitraglione, ha colpito solo lui. Un insuccesso e un vantaggio. Due volte. Quindi lui è un po' l'odio. Un insuccesso e un vantaggio. Un vantaggio non vuoi spegnere. Chi ha il droide? Vantaggio, gli do un nero a colpirci, immagino, quello che posso fare, cioè, giusto? Ok. Non mi ricordo le cose che posso fare. Allora, Giulio. Chi ha il droide? Chi hai fatto il danno? Niente. Il droide faccia una roba per damage control. Il droide inteso Sheo, no? Uno dei due droidi. Sì, allora tu. L'altro è disattivato. Quindi. Aspetta, Giulio, cosa devo fare? Ma perché non li facciamo sparare? Uso il mio talento, Brilliant Evasion. Una volta per incontro faccio questa azione, seleziono un opponent e facciamo un opposed piloting check. Ah, semplicemente sopra l'armatura. Sarebbe stato per fermare lui da cercare, attaccare per un numero di round pari alla mia agilità. Cose di vari cantoni. Lo cerchi a raglio, sì, vai un po' avanti test con il vehicle test, opposed piloting check. Catanone ce l'avevi da noi. Sto cercando di salvarci il culo un attimo. Comunque noi abbiamo breach del coso. Ignora un punto di armatura per ogni rating of breach. Quanti ne hai tu? Due. Okay. Quindi ignoriamo due di armatura. Ah, hai trovato... Breach. Sì, non ho per due. Dov'è che si scrive breach 2? Sì. True shot. E poi cosa avete da cercare anche delle dovezze noni? Turbo laser light. A caso della pagina, paradossalmente, se il droide uscisse con l'altra nave, sarebbe rispetto alle armi normali, alle pistole, i cannoni, le spade laser. Dov'è la pagina dei cannoni da nave? Prima o dopo? dopo. Mi parti delle navi, non so che cazzo sia. È opposite. Opposite check. Non so. Allora, tu lo fai. Non so come funziona, cosa vuol dire. Cioè, io faccio l'azione per fare l'opposite piloting. Okay. Sono due rossi e due viola. L'opposite vuol dire quindi che contro la tua abilità, e contro la tua abilità. Due gialli e ok, due non è tipo prova contrapposta e si tira tutte e due. Quello è completo pure. Ok, ok. Due rossi e due viola. Sì. Merda, due rossi e due viola. Ok. Allora. No, che sfiga. Non hai roba per ritirare le prove di parity? Sì. Non ce l'ho fatta. Sì, però ce l'ho fatta con... Cos'è la carta che mi dicevi? Un successo e uno svantaggio. Ok. Cosa quindi senso? Lei non ci può sparare per un numero di round pari alla mia agilità. 5. Oh, merda! Oh, finalmente il pilota. Scusi, può scendere alla sua fermata? Senti. Cos'è che devo fare? Che mi servirà come cannone? Vabbè, turbo. Niente, allora il droide spara. Laser cazzo. Questo sono il prezzo? Ma se no guarda nelle singole navi. Questa è... Wayfarer class è che questo l'abbiamo comprato, non è quello che c'è. Sì, ma guarda, tipo, non so come si chiama il coso. Lo cerco un attimo. No, come il nome del cannone? Ho trovato, aspetta, 229. Forse capito. Qua Turbo Laser Light 9 danni, critico 3, breach 2, esatto. Firing. Aspetta che lo scrivo, 9 danni. 9 danni, critico 3, breach 2, true shot. Non c'è. Low firing 1. Low firing 2. Range medium. Range medium. Ma noi avevamo una che faceva anche Linked. L'altro, no. Il Dorsal Quad Laser Cannon. Quello in teoria OP. Però range close e ha danni 5. Ma cosa ha fatto? Cioè, danni 5, però se può sparare più volte. Non ci può sparare per 5 round. 5 round? Sì. Spaziamolo. Grande carta. Perché vi preoccupate? Beh, niente, il droide doveva curarci, ma è meglio se spara, forse. Sai che se un Wookie ci spara con la balestra la nave esplode? Sì. Spero. Spero. Chi tocca? Per 5 round, sciogliete. No, 5 round fa a voi, certo, comunque. 5 round non può spararci. Ok, Sci1 ha già giocato. La volta della vostra velocità, quindi prendete. No, Sci1 non ha ancora. Sci1 spara quel cazzo di nave. Allora, stupala. 8 gialli, quindi. 15. Funziona tanto così. La tua abilità che usi è la G. E l'agilità sì, solo due. Sì. In più, se hai un rango, questi due verdi sì. Ti diventano uno giallo. Quindi sì. Un verde e un giallo. Sì, sì. Anche un blu che gli do io? Un blu. Ok. Gli do anche un blu. No. Sì, gli do uno anch'io. Quindi è blu. E puoi anche mirare. Oh, e quindi prendi un altro blu. Però prende strain qua? No, no. Questi? E poi ora tiri la difficoltà. La fare. No, però ecco, se devi prego. Fare dei grandi. Non beccherò. 4 e mi sembra un altro viola. Hai visto passi un viola? Sì. Comunque, Vez, ti dico questo. Vez, se uno di voi prendesse la nave, l'altra. Ti fa dei grandi vantaggi che viola. E uscisse, non avrebbe tutto quello svantaggio e la sbombarderebbe di brutto. Un fallimento e due svantaggi. Sì, ma... No, anzi. Tu. Questo, io questo. Cioè, guarda qua, il blu. Il due blu e va bene. Ma non so sparare. Un fallimento e due svantaggi. Era mancato. E anche pilotare. Pilotare o agire. A meno che Giulio non ci dia 15 exp subito, io non so pilotare. No, non sai pilotare, mai pilotare. Perché devi saper pilotare? Ah, il catch. Perché il... Ah, abbiamo il catch da uscire. Sì, però no, me ne bastano 10 di exp. Secondo me lei una figa, non c'è, c'è spazio il catch. E soprattutto se esci col catch, non vale più la cosa che ho appena fatto. Cioè, che io. Adesso lei non può attaccare questa nave, se esci col caccia ti può attaccare. Sì. Proviamo a sparare. Chi deve sparare? Che cosa ha sparato? Io ho fatto la cosa. Sì. Sparato. Abbiamo sparato. Sa lei, si allontana. Si allontana. Avvicinati. No, lei, dico, dici. Tu. Avviciniamo. Bella, posso inseguire e sparare? Sì. Adesso vediamo. No, che voi andate molto più lenti di lei. Ma io sono. Perché, scusami? Perché un caccia va più lento di una nave. Puoi usare lo sniper volendo. Difficoltà in più. Mm-hmm. E se lei è fuori portata, ci arrivi. Mm-hmm. Okay. Chi c'è nella sala carbone? Oppure tiri fuori il napalm e bruciamo sta cazzo di base. Fatta di legno, tra l'altro. No, la base no, i cannoni forse sì, però. Sì, anche. Però io scendo. Dove scendi? Perché sono in mezzo così. Ciao! Fai rasoterra, faccio un fast. Hai il casco, sta per scendere quando vuoi. Scendo così. Basta che tu vada a distanza close allora da terra. Beh, se lui va a distanza close da terra, io scendo giù. Sì. Ma adesso siamo impegnati a distruggere il caccia. Ma non ci arrivate al cazzo di caccia. Vabbè, sì, forse ancora un round di spari si può provare. E tentare la botta di culo. Riga, abbiamo il turbo laser che fa una roba pazzesca, ci arriviamo comunque. Quanto è la distanza? Medium. Comunque io posso anche... Perché gli altri sono short. Gli altri sono close, sì. Sono close. Il quad cannon, quad laser cannon. Ma lui è medium. Però con lo sniper shot possiamo andare anche oltre. Ma scusa, tanto lui non è che sia andato chissà dove. Mi devo. Giulio che sta cercando. Devo aspettare il responso. Comunque potrei fare. Se andava piano prima, può andare un grado più veloce. Non è che può mettere il turbo. Vabbè, ci sono dei talenti. Buzz. Sta venendo verso di noi. O fa manovra e torna indietro. Vi ha sfrecciato davanti varie volte. Ma quanto andava veloce? È una massima velocità 5. E non può fermarsi, non è come a piedi, Non si ferma, spara andando, non ti devi fermare. Adesso ci guardo, ma... No, è così, non è che tutte le navi si devono fermare per sparare. Comunque, se serve, anzi, probabilmente lo farò, una volta per round, quando sto pilotando una nave, posso prendere due strain per fare qualsiasi azione come una manovra. Ah, una manovra? Quindi posso usarlo per sparare due volte? Sì. Catta spazzolo, se lo spazzolo. È la stessa che ho io? Sì. Comunque anche io... l'ho fatto prima io, che ho fatto fuori 8 buchi. Mm-hmm. Perché ho fatto una manovra. E comunque vale anche per voi, adesso avete velocità zero. No, vabbè, quando ho fatto l'evasione, penso che ho dovuto metterla in moto la nave. Ho fatto l'evasione da terra. Hai ondeggiato se stesso. Vabbè. Oh. Sì, la nave era in moto, mi eravate fermi per fare salire la gente. Vabbè, quindi? Sto cercando di capire se posso spararlo. Aspetta, prima devo la velocità del nave. Serve luce? No, non combattimento c'è. Aereo? Si rivende la nave. No, ancora. Cioè, che velocità hai tu? Io ho da piedi. Come faccio a saperlo? Speed 3. Spider. Speed. Un raggio vuoi? Ho un presente per quei cosi che camminano dell'impero. Quadrupedi. Sì, i camminatori, beh, quelli sì. Allora, noi abbiamo un turbo laser light, che è medium, che in realtà vuol dire molto figo. Tanto 9, critico 3, bridge 2 e slow firing 1. Cosa vuol dire slow firing? Non so. Ti ho detto, guarda le cose. Ho guardato bridge. A lei adesso è long. Ho guardato bridge 2. E lo slow firing? Lo slow firing praticamente è una... Quindi posso muovermi a medium e sparare. Che fa? Tu e il miramo di alla serie. Slow firing? Bisogna chiedere cosa. Non credo che sia qua. Sì. Si guarda la parolina. Perché non ci sono medie. Slow firing. Una speed 2-4. Una manovra. per muoverti da close, no, in close range, o da muoverti da close a short. Due manovre per muoverti da close a medium o a medium to close. Quindi per muoverti quando si fa da long a close. Ah, servono... In teoria può fare due strain, può dargli una mano al copilota. No. Se devi fare due manovre vai a medium. Se andrà a verde. Aspetta. Slow firing, l'ambiente dice che tu fai danno e lui soffre, quindi lo uccidi. Slow firing che spari una volta. Se dobbiamo aspettare un round. Dobbiamo aspettare un round. Ah, spara una volta e poi aspetta. Poi è... ok. Vabbè, giusto. Meglio di no. Non puoi fare la manovra che se punchi. Tocca ancora al Giulio. Ora è troppo grande la nave. A noi, ma Giulio deve decretare se lo possiamo colpire o no. Basterebbe. Quanta di silhouette tutta la nostra? 5. Troppo. Scusa, Salla. Se cioè, tu stai guardando se noi siamo a close, giusto? No, siamo a long. Da lei. Quindi non ci possiamo arrivare comunque. Con due manovre dovreste riuscire ad arrivare a medium. Però le tue armi okay. sono close. Il turbo laser è medium, però è... Sì, il turbo fire. Laser non esatto, non può colpire. Però tu se sei a close... Il quad laser è close. Close è meno di short? Sì. Ah, close meno di short? No, non è bello short le navi? No, cioè close, short, medium, long, extreme. Ok, mica, questa è andata via praticamente. Vabbè, andiamo a spazzare i cannoni. Raga, perché se no ci viene abbandonato andare a uccidere tutti quanti. A manoni. O spazziamo. Un colpo la nave e voi siete morti sulla nave. Un colpo solo e lei vince tutti. No, beh, cosa lo può usare il suo round per curarlo? Quant'ha in meccanica? No. Oh, quant'ha il nostro droide in meccanica? Sì, esatto, facciamo una riparazione, si possono fare. Sì. Allora intanto... Cazzo, riattiviamo il nostro droide. Vai, sure. Ecco. L'astro droide. Ma ora Arci è sulla nave. No, lei so, l'avrà deciso lui. Arci, non è che ho deciso io, non avevo il movimento, non potevo arrivare. Ma la nave è lì ferma. Cioè, devo ritirare questi dadi uguali, no, senza speranza. No, è un'altra cosa. No, ok, fermi tutti. La nave, in questo momento, è lì attaccata alla base, giusto? Non lo so più. Si mossi. Io ho fatto sta manovra per non farci sparare. Una manovra. Quindi... Devo diciamo tornare... che è vicino alla base. Devo tornare a prendere Arci, non ho capito. Come volete voi. Cioè, o prendiamo Arci e ce ne andiamo. Ad esempio. Oppure andiamo giù e a terra uccidiamo la grande. Oppure vediamo, però cosa riesce vediamo cosa riesce a riparare. Siccome questa qua è scappata, possiamo andare a spazzare via i cannoni. Forse se ti avvicina al suolo, intanto scendo e andiamo a segare un po' di gente. Sì, sarei contrario, però. E poi tra 5 round la tipa del cazzo ritorna e ci fa saltare la nave. Spariamo a terra invece? Giulio, ma tu dove sto fare il tempo? Ma la tipa del caccia è una cosa stupida, perché se tu atterri e prendi il nostro caccia. Vai dietro la tizia e la one shotti. La one shotti perché lei è molto più brava di noi. Di catta? È il suo lavoro? No, di catta. Cioè, se catta a terra, prende il caccia, esce e one shot all'altro caccia, abbiamo finito. Caccia contro caccia, guarda, dai figa. Già ti vedo spappato. Mi piaceva di più shottarla con la nostra nave. È la nave. La nostra nave. quella grande. Sì, se tu piloti e Vez spara, la one shottate quella nave là. Io faccio cagare con questa nave. Hai 26 dadi. Ma colpisce solo i Jedi lui. Non ho i gialli, non ho gialli. Ma che te ne fai dei gialli? Vabbè, come vuoi. Avete la stessa silhouette, la scoppiate. È a due posti il nostro caccia. Sì. Il sì, perché in sala li vedo già entrambi che precipitano nel vuoto. Mi frega, io sono a terra. La mia missione segreta è uccidervi tutti. Vez è capace che ti ammazza precipitando, schiantandosi contro di te. Ma sei trando, cioè quello cazzo. Ah, boh. È che non abbiamo tempo di fare nulla, perché 20 secondi a quando avete fatto il no. Esatto, perché adesso tanto cominceranno a sparare i cannoni. Cioè, loro devono comunque partire dal loro pianeta. E dove sparano i cannoni dentro la loro base? Il capitano è sulla guida della nave. Io dico di prendere Arci e andarcene. Io su quella nave che sta per morire. Allora lasciamo Arci qua e andiamoci. Allora costa che scendo anch'io. Beh, per prendere Arci... Non lo so, io e Salla eravamo due Jedi nella classe degli Jedi. No, rega, non perché di gara, per eravamo stati sospesi. Eravamo a casa, mi sono salvati. Sì, su questa cosa dobbiamo parlarci. Cioè, il problema è che se noi ora lasciamo la cosa non siamo sicuri che Trandoshan riesca a prendersi la base. Non c'è caso, uno abita nel tempio. Quindi quello che abbiamo fatto rischia di essere inutile solo da noi. No, Giulio, basta, è canon. Eravamo alla visita medica. Era fuori. Allora, le possibilità sono due. Ho un'idea geniale. Katta prende il caccia, parcheggia la nave, prende il caccia e va a farsi il suo duello come dovrebbe fare. Intanto noi disterminiamo più. Secondo me ha senso. No, questa sarebbe l'opzione se fossimo dei sì. Io qui mi oppongo. Ma se però è la consiglio per voi che potete. Se con la nave spariamo a terra la gente che cammina, cioè in teoria gli buchi dovrebbero morire lì adesso di da parte. Beh, se un buco ti tira un sacco, la nave esplode. No. Vero. Vabbè, raga, votiamo. Ah, easy. Scusa, se intanto... Easy. Osceo guida la nave e spariamo a quelli che sono per terra. Col caccia io e Katta andiamo a cercare sta tizia. Sì, vabbè, mentre lo fa Costa che scendo. No, allora, Salla, sulla nave io ho una voglia di lanciare giù l'ascensore dalla finestra che non immagino. No, rega, sulla nave ci dovete comunque stare perché se dovete usarla, eccetera. Ma non posso usarla, non so usare la nave. Ah, sì che la pilota scio la nave. Io non so usare la nave. Non devi usare la nave, tu devi sparare con i cannoni. Non so sparare. Spari su della gente per terra. Cioè, non ci vuole un cazzo di genio. Cioè, tira un dado già, un dado verde, basta. Tirerai un dado verde con difficoltà quanta per colpire. Non prende neanche il suolo con il dado verde. Se vuoi sparare a caso... A caso, se vuoi sparare uno, la difficoltà è... Ok, non mi interessa che faccia la barba. Vabbè, scusate, adesso... mi interessa che lo faccia esplodere. Per sparare a un'altra nave hai 4 difficoltà, perché è più piccola. Se devi sparare a spara persona, un branco di cani. Ma chiaro, il punto è che non ci sono migliaia di Wookiee. Allora ti dicevo che l'altro giorno invece che dire cazzate, un secondo già ne avete ammazzati 15, quindi non è che sono rimasti tantissimi, soprattutto non sono lì fuori così. Qui tutta la base è deserta, non è deserta. Voi avete Arci, visto ha modo di scendere. Vanno, questo due round qua. Arci, ha modo di scendere. Io? Ho modo di scendere. Rimetto a posto l'ascensore. No, ma non ho modo di scendere effettivamente. Chi lo sa, magari ingegnandoti. Magari arrampicandoti, scendendo, non so. Quanti cazzo di piani sono? 3 piani. Cioè, poi sono 3 piani in 30 minuti. Appunto. E non puoi spingere quando cadi. Scusa, con la nave siete già giù dove volete. Salite sulla nave, noi andiamo col caccia. E con la nave vai dove ti pare. Andiamo a cercare Kyle. Io voglio parlargli. Dobbiamo scendere per cercare Kyle. Non possiamo cercare dalla nave. Ci sono dei cannoni che si stanno attivando. Ci ma non spareranno mai nella loro base, Katta. Ma se usate la nave per andarvene dopo, ti spareranno dopo quando ve ne andrete. Ma chi se ne va? Io vado lì e gli stermino la gente. Io sono contrario, ma lo aiuto. Tanto loro non è che sparano coi cannoni nella loro stessa base, che lesi sarebbero. Ah, raga, abbiamo visto che i combattimenti aerei non siamo. Non è visto che. I casi sono due. O siamo c'è l'arbitrio e ognuno decide cosa fare. Oppure qualcuno di noi si prende la responsabilità di decidere. Visto che nessuno di noi se la prende, io scendo. Adesso siamo a mezz'aria. Scendi dove? Tu sei in aria, scendi dove? Cioè, è apposta? Cioè, è sbagliato, io vado, Cioè, ciao, Iac! Va bene, prendo il caccia e scendo. Va bene così? Cosa vuoi dire? I Trandoshan, verosimilmente, arriveranno tra una ventina di round. Minchia. 100 secondi. È molto poco, in effetti. Pensavo peggio. Caccia. Atterriamo, andiamo a distruggere i cannoni, uccidere i cannoni. E io te abbia accosto caccia. No, io accosto, se Arci sale, bene, e andiamo. Sì, salgo, se accosto. Però mi porti via, giù. Via, scappiamo. Ma non... Cioè, non riesco a prendere la base. No, li abbiamo decimati praticamente, li abbiamo ammazzati sì, 20. Ma arrivano e gli tira giù i cannoni perché sono veri coglioni. No, atterreranno da un'altra parte. No. Rega, dobbiamo arrivare al controllo dei cannoni. Grande, devi andarci via terra. Dalla dalla squadra dove siamo non si arriva. C'è un cannone che ha portato via ascensore. I cannoni sono una porta. Sì, ma ci sarà il si controllo della base. No, no, non è detto. Sono dei cannoncini piantati. Vabbè, da qua i cannoni quanto c'è? Si controlla dalla base. Sì. Vai lì e lo che spari da lì. Andandoci con la nave. No, saranno dei cannoni. Dei danni che da paura. Poco. Un movimento, una manovra con la cosa sì. Con la nave. Vabbè, carichiamo Arci, andiamo dai cannoni, facciamoli su. Sì, questo è già bene. Sì, ma se tu voli sui cannoni è facile che i cannoni ti sparino. Infatti tu cattivi prendi, scendi per verticale, esatto. Scendiamo e andiamo a uccidere i cannoni a pedate. Sì, era solito, quello che voleva. Se vai con la nave lì sopra quanto ci metto? Sparano. Di solito. No, atterro lì vicino. Ma non tu gli atterro, sai, hai hobby internet. Quanto sono lontani sti cazzo di cannoni? 6-7 round a piedi. Oppure a piedi, cazzo. Oppure in movimento in astronave, facciamo prima e magari... Vai, se andiamo davanti ai cannoni e li blocchiamo la visuale... Scarichiamo lì. Secondo me... Tanto la nave la lasci lì, non è che la prende qualcuno. Io non capisco questi cannoni esattamente, cioè sono lì con un OVK che spara in sì. Bella vista. Voi non lo sapete. I sensori della nave hanno il sentito. Allora, puoi fare la manovra perché sono sì, in sì, vedere che cazzo c'è. Sì. Allora, sali sulla nave. No, no, rega, no. Lui la fa la manovra evasiva, ma se lo beccano una volta esplode. Quindi cosa lasciamo? Arci giù perché... Scendiamo, parcheggiamo la nave... Sì. Noi andiamo ai cannoni, voi col caccia stuprate l'altro coso. Esatto, è così. No, così intanto i cannoni ci sparano, la tizia ci spara, noi moriamo, voi siete felici nella base, fino a quando non arriveranno i caccia e i cannoni a sparare anche a voi. Noi andiamo a uccidere i cannoni, così. Come ti fai a uccidere i cannoni che non sai cosa sono? Cioè, magari arrivi lì, è una roba. Dici, metti 4 bene. Sì, esatto. Arci la solleva il cannone, li butta uno contro l'altro. Magari è una torretta che non lo puoi spostare. Bene, allora ci saliamo e li uccidiamo tutti. Se non sai cos'è, e tu te ci arrivi tra tipo 10 anni. Ecco. Allora, aspetta. Tu la cosa... via col caccia verso l'altro caccia. Non sei anche lontano dai cannoni, capito? Ho una domanda per tutti voi. Li portiamo lì. Voi andate e fate il vostro giochino. E noi andiamo e facciamo il nostro giochino. Però scusami, conviene usare il caccia. Non hanno un colpo che vabbè, muore. Sì. Ti viene la diarrea, lì la grave crolla. Se il cannone perché il caccia... Anche il caccia se viene colpito una volta esplode. Esatto, è quello il fatto che per voi è divertentissimo perché ci andiamo in catta, però... No, è che la nave però non gli sta dietro ai ritmi del caccia. No, questo gli viene stuprata. È d'accordo che il caccia deve andare, però se ci sono i cannoni... Scusate. I cannoni sono sulla terra, tu ti stai voli dentro. Ma i cannoni sparano su, Sì, ma tu sei lontano. Per quelli che ci sono i cannoni. Però il caccia non è andato verso il fuori. È già fuori dal range dei cannoni. Lo sai. Cioè, ho capito, se tu con i tuoi cannoni della nave non spari oltre il medium, anche loro non spareranno oltre il medium. Loro diciamo che al massimo avranno long. Oddio, se loro hanno long è un piccolo problema, cioè nel senso è long, ci siamo già dentro. È un problema allora, dobbiamo dividerci, dai. Se noi diciamo di andare sui cannoni, voi intanto andate a cosare il caccia e boh. Sì, ma a prescindere da tutto questo, la decisione deve essere comune, no, ognuno decide cosa vuol fare. Perché in teoria c'è un capitano della nave che no, perché non è nessuno gli ha dato un ruolo di capitano. Ma in realtà sì. È il suo nome, capitano. Non è che gli abbiamo dato un grado. Non è il nome. Capitano. Non gli abbiamo dato un grado. Non è che ha detto, oh, bello questo figlio, come lo chiamiamo? Va bene, a chi tocca? A chi tocca? La rosa la chiama con un'altra. Una di voi. Tu puoi anche prendere e scendere, ma se prendi e scendi nell'aria, cioè puoi essere... Vado e prendo il caccia e esco. No. Alla, vediamo. Alla, tu devi venire a mietere i cani con me. Aspetta, sì, ma atterro col caccia. Se non, a parte fuggire, qual è l'altra opzione per te? Andare a fare sui cannoni. Con la nave base? Con quella in cui siamo adesso ci arriviamo in una manovra. Sì, la di merda. Ci possiamo arrivare subito, non è, senza dargli il tempo. Ma è mezza rotta, cazzo. Ascoltami questo, i cannoni, plurale. Visto che io basta. Vado verso dove ho sradicato l'ascensore e guardo se ci sono tipo una scalinata. Che magari va bene, io prendo il caccia e scendo. C'è la rampa e la oh, rega. Prendo il caccia a terra. No, dai, sali e scappiamo. Mi ha reso così. No, vabbè, puoi provare con i cavi dell'ascensore che sono rimasti. Che non hai sradicato. Oh, raga, fate quello che vi pare. Va sai. Bene, allora, mi accosto per far salire Arci. Arci, sale. No. A lui lo chiede. Era perché volevo, già volevo sentire la risposta in automatico. Non so. Arci, sale. No. No, si sale a questo punto. Col però cazzo li porti giù, col drone. Io adesso parto per l'iperspazio. No, scendo io. Tu non lo sai che lo sto per beh, fare. Beh no, cazzo, stai muovendo una nave verso la torretta. No, deve andarcene via, però tu non lo sai. Okay. Io arrivo lì a prendere. Allora, no, fammi... io scendo però. Mi tirate in va bene, ciao Sal. Mi tirate l'iniziativa. Vai. No, non c'è bisogno di tirare l'iniziativa. Se lui accosta io posso scendere. Vedete sì, tra certo. Voi chi va, cosa fa. Tipo magari se no, tu salla, scendi, salla, tu, salla. Tu vai prima di Aria, a parte le cagate, a parte le cagate, accordiamoci. No, no, fallo scendere. No, è una cosa stupida accordarci, nessuno di noi ha un ruolo, cioè sarebbe troppo utile no, allora, accordarci esatto. No, nel senso, se allora, tirate, piano, tirate iniziativa, cool. Oh. Due verbi. Tanto non tiro cool, non ho mai cool. No, secondo me dovrebbero fare vigilance. No, sure. Esatto, okay, perché secondo me non si allora aspetta che l'altro faccia una cosa che non vuole fare. Siamo vigilanti. Oh. O meglio, no, secondo me Sala dovrebbe fare cool. 2-2. E gli altri due vigilanti. Ma no, scusami, Vezzi, io lo vedo che sta avvicinando la torretta. Infatti dovresti fare cool. E gli altri perché? Due vigilanti. 2-2. Perché Kata non si aspetta che tu sia ricoglionita e voglia scendere giù. Oh, e Giulio, puoi guardare nello schermo quello che ho tirato. Vantaggio, un successo. No, è quello sotto. 4 vantaggi e 6 successi. Cioè, normalmente tu, per quando dobbiamo fare le cose, fai mezzo vantaggio. Ma che vuoi? Ho one shot. Scusa, io stasera ho fatto una cosa sola e ho one shotato un tipo. No, ma quando fai l'iniziativa, al massimo fai un vantaggio. Questo di fatto. Perché nelle ultime 30 volte abbiamo iniziato una volta sola, beh, quando abbiamo fatto un trionfo per sbaglio. E tipo piccoli compagni cazzo. Sala delle varie allora, se, senti sta cosa, ascoltami un attimo e dimmi se ha poco senso. La prima se nessuno di noi ha scelto in modo democratico questa cosa. Ma avete fatto come cazzo vi pareva a voi, chiaro? Hai super laggato, ma abbiamo capito. Vai, sapete, cioè, nel senso, non c'è stata alcuna decisione democratica. Avete deciso voi come cazzo vi pareva. E a sto punto decido anch'io come voglio, no? Ma voi chi? Nel senso, io e Arci abbiamo detto andiamo a piedi. Io e Arci abbiamo detto andiamo a piedi. E tu e Katta. C'è un problema di base. C'è un problema di base. Katta è al comando della nave in questo momento. Tu Katta vuoi andare via. Quindi la nave sì, la sta comandando Katta. Ora noi possiamo arrivare a una decisione. Se non arriva alla decisione, e lui. Vabbè, Sala, se Katta vuole andare via, andiamo via. Oh. Ma no, è una cosa stupida, scusa. Io non sarei per andare via, però non sarei neanche per andare a fare dai cannoni. Non ho vabbè, capito. Io adesso devo comunque prendere Arci. Ciao, Sala. Allora, scusate, volevate fare una roba democratica, ma alla fine scegliete come cazzo vi pare, o no? Adesso l'ho detto a te, hai l'iniziativa. No, voleva hai trovare una soluzione. Solo che... Scendo giù dove era Arci dall'ascensore. Ora a questo punto vedo Sala che scende, perché sì. Non sono ancora salite. Allora, quindi posso chiedergli... Viz, che intenzioni hai? Scendiamo e spacchiamo i culi ai tizi. Io ti dico che ti faccio vedere l'ascensore. Ci sono dei cavi per scendere. Sì, ho visto, però sono... Però quanto è alto da dove siamo al suolo? 30 metri di scalata. Quant'è 30 metri? È un long o un medium? È un long. Sala, No, però se io, scendo, se io scendo di un raggio, c'è un ponte, sì, ti, prendo, metà, metà co- ti prendo e ti metto nel medio. No, a metà c'è un ponte per andare a un'altra torretta. E quanto è lontano il ponte? Cioè, tra il piano dove siete voi e il piano sotto sarà medio. Ah, vabbè, vabbè, allora salto. No, no, salto da te. Ah, ok. Vabbè, non quello so. Capitano, cosa succede? Non avevo la più pallida idea. Vabbè, andiamo di là easy, scusa. Io posso anche saltare di là. Senza usare la forza. No, non nell'ascensore, dici, dalla nave. Sì, faccio un force leap e salto di là. Scusa, proviamo. Sì, se terrasco nella vegetazione, ci nascondi su. Mica terrasco dalla nave. Oppure nella grotta che abbiamo visto. Dove vabbè, la mia azione, io arrivo lì. E ma tu sei già saltato da me, no? Provo a spostare Arci dal ponte. C'è gente in giro. Abbiamo visto una grotta da cui in teoria è uscito. C'è gente. Ci arrivi a lì dentro, in teoria sembra sicuro. Sì, se faccio tiro abbastanza bene, sì. Trattato del lupo. No, vabbè, l'unica pilota che abbiamo incontrato. Scusate, no, però non ce ne sono altre. Giulio, c'è qualcuno in giro giù sotto? No. Vabbè, aspetta, però io prima di scendere, Giulio, prendo l'ascensore e lo lancio fuori dalla cosa. Dove siamo? Dove c'è? Quindi contro la nave. Scusa Sanna, però l'avevo sradicato, non posso lasciarlo lì. Allora, io lo lancio. E? 3 punti. Okay. Move. No, cosa? Perché ti stavo c'ho anche contro. Anche quando... No, no, no, beh, proprio, lo so, l'ascensore. Ma cosa sono quei? Perché sono bianchi quelli? Questi sono dei dadi forza, da Jedi. Io, cosa c'è lì sotto che posso minare con l'ascensore? Non so, puoi spararlo contro un'altra torre. Per fare, certo, quello che per utilizzare la forza. Sì, non è che farà troppo danno. Gli deve venire il bianco. Una vetrata, però. Sì, che sono meno dei neri. Ma lì non lo vedi. Perché è tutto sicuro. Vabbè, è una nuova, cioè. Okay. E le altre torri sono tutte più basse. Se gli viene un nero. Allora no, sparo di... Sotto il bianco. Cioè, tu devi farla, devi sommare tutti quelli. Più bianchi gli viene, più forte è il suo potere. Se gli viene invece un nero, può decidere di utilizzare questa risorsa, che è un light side, si chiama, che ne abbiamo un numero limitato all'inizio della partita, e se lo usa praticamente invece attinge dal lato scuro. Quindi il light diventa un dark side. Però se devo capire una cosa grande è un patrullo. Ok. E questi li può usare lui per farci capitare delle sfighe. Sono troppo buono. Esatto. Per ora qua abbiamo due bianchi. Due successi e cinque vantaggi. No, due vantaggi, scusami. Per ora sì, due bianchi e cinque niente. Due successi e due vantaggi. Due vantaggi mi piacerebbe che ci fossero qua. Voi come fate a vedere i bianchi? All'inizio della sessione ognuno tira un dado. Da parte lui che sfondi, le base. Sai cosa, sfondi, no, lui aggiunge un bianco di base. E quindi abbiamo un cumulo di light side e un cumulo di dark side a seconda di quanto ne tiriamo. Non ripara niente la sfondi. Ok. E li puoi usare per far capitare. Dice che per far cadere una budget. Ci vogliono anche le facilities. Vuol dire che se tu fai un 1 durante un fight, puoi dire flippo. Ma sono su una bazza. Quindi lancio l'ascensore giù da torretta e poi vado su Salla. Tu Salla mi devi prendere e buttare giù. Ci passate la strada. Non so se conviene aspettare per vedere se c'è qualcuno che ti può sparare. Sì, cioè, secondo me ti spiego se aspettiamo la lancia quando ha aperto lui. No, non è che quando ha aperto lui dovete dirmelo e farlo. L'ho dimenticato, però io lo do. Puoi usare il coso per passare. La forza questo turno non la può usare perché ha sparato un ascensore fuori. Ti dico, se aspettiamo un round. Cioè, io ti potrei tirare giù. Però poi saresti giù per un round da solo. Se aspettiamo il prossimo round, scendiamo insieme. Sì. No, tu io avevo capito che fossi già andato giù. Non posso, mi sa. Posso andare giù? Ok, no, allora ok. Se la distanza è medium, posso scendere in realtà. Beh, non sei già sceso dalla nave. Però. Però posso usare un'azione come manovra. Faccio il force leap e scendo. Ok, sì. Quindi sei giù. Provarci. Ma aspetta, ci devo provare però. Due bianchi, roll, no, due dark, non flippo, ciao, sono ancora lì. Vabbè, ci andiamo dopo il turno insieme, no? Sì, sì. Il droide l'ho lanciato su, l'ascensore l'ho tirato giù sulla torre e quindi siamo pronti. No, lanciamo su, lanciamo il droide. Qua comunque... Un bianco. Ha lanciato il droide che no. Già non era messo bene, sicuramente. È che l'ho schiantato. Ah no, aspetta. Così parte il potere, vediamo se becchi l'apertura. No, vabbè, ma se la nave è ferma. Se lancio un droide contro la nave che ha 5 di vita, probabilmente esplode. Cos'è? È uno. Cosa che devo tirare? Un viola. Non ci credo. Ah sì. 4, 2 successi e 3 vantaggi. Noi abbiamo anche solo alt round, vero? Non abbiamo system strain. Non abbiamo strain. Solo alt round. Dai, rega, su. Perché fa così freddo qua? Devi metterti qua, che c'è il... Sì, devi mettere la stufetta. Bene, iniziativa dopo chi sta? Sal l'ha fatto, io l'ho fatto. Oh, no, è vero. Io non l'ho neanche tirato. Non hai neanche tirato? No, perché io sono nel coso della cabina. Cioè, io quello che posso fare... Cioè, io aspetto che mi dici tu qualcosa. Sono lì a... No, l'ho fatto tirare voi tre perché... Ah, ok. Voi che stavate litigando. Okay. Va bene. Ti chiedo, capitano, cosa facciamo a questo punto? A questo punto... Lasciamo i Jedi lì. Lasciamo i Jedi qui. Vabbè, sarà una base vuota dopo, però vabbè. Sì, è un wico. Francese, in teoria. Scusa, in realtà è sempre cinese. Se stesse a Sci-1, potrebbe stare a Sci-1, potrebbe vedere dove si trova, cioè, la cosa di comandi di questo posto, forse. Se riesce a entrare. Come ha fatto all'inizio. E poi? Meno li puoi indirizzare. Che comodo di vedere, se ci sono... Tipo in qualche quadro, quello che volevo o fare. Anche eventualmente dove sono localizzati i Wookiee, così posso evitare di ucciderli. Non lo so. L'ha fatto prima, scemo, il tiro. Eh? E ha visto i cannoni, sì, ci sono varie cose in tutta la torre, però... Però scusami, la base di Wookiee sono 20 cani di merda? E basta? No, ci sono dentro dei tizi. Ah. Cosa vuoi sapere? Esattamente la locazione esatta? Sì, esatto. No, il radar di una nave... Ti indica che c'è del movimento. No, non dico la panna, se lui andasse a smanettare nei pannelli di controllo. Vabbè, facciamo il nostro. Decidi cosa vuoi fare. Mettiamo la nave tipo nella l'insenatura, quella protetta. Ma è geniale. Andiamo a vedere sti cannoni. Mettila dentro al pianerottolo. L'ascensore l'ho tirato giù, la vetrata è spaccata, la metti lì. Guarda che grazie. Silhouette 5. Non ci sta. Guarda. Quanta è la vetrata, scusa? Sfonda tutto, poi si appoggia e poi trova tutta la torre per il peso della nave. Ammazziamo tutti quelli che sono più grandi. Vediamo cosa sono questi cosi da quella maniera reversiva. Questi cannoni. Ci vuoi andare con la nave davanti ai cannoni? Vuoi vedere che no, cazzo sono? Andiamo a parcheggiare. Vabbè, fai quello che vuoi. Andiamo per parcheggiare nel. Abbiamo visto da dove è uscito il caccia, no? La grotta della foresta. C'è un buco tra gli alberi in una grotta. Esatto, ci entra lì la nave. Sì, insomma, un'altra volta l'hai visto, è uno spiazzo grande, non sai se è il caccia per le. È coperto, è riparato questo. Nella foresta a un certo punto non ci sono più alberi. Sì. Tu l'altra volta facendo la super manovra, hai fatto un giro e hai capito che lì non ci sei passato da tanto sopra, quindi non hai visto, però hai visto che lì più o meno sarà dove atterrano le navi normalmente. Ok, ma non avevamo visto una roba nella foresta dove... No, questo spiazzo che tu hai capito Il caccia è arrivato da quella direzione lì o abbiamo capito dove sta parcheggiato? Si mette lì, ok, non è coperto sopra, ma tutti gli alberi c'è intorno, quindi i capelli ce ne frega, i cani che volano... E vabbè, allora posso anche lasciarla qui la nave per quello che cambia. No, volevo sapere se c'era un posto riparato, tipo un hangar. Beh, teniamo il sinistro qua e vediamo se torna il caccia. Fare una parola di riparazione. Vabbè, parcheggiamo e partiamo col caccia nostro. Ora che vi lanciate il andiamo a fare sto duello stellare. Scusa, fai una prova di riparazione. Proviamo. Ah sì, provo a parcheggio e provo a riparare. Altrimenti non può riparare. Altrimenti copriteci mentre noi andiamo. Non puoi riparare l'Outrauma. Ci vuole un posto dove andare e dei soldi da spendere. Va bene, allora partiamo col caccia. A quanto ho capito, non c'è solo una modalità strain. Solo per lo strain. Ok. Questo è il problema. Che è questo qua. Che però l'abbiamo posto. Beh, in realtà dice che un meccanico skillato potrebbe provare a riparare lo stesso. In generale serve un qualcosa, però magari il GM io potrebbe... anche dall'astro droide no, non vedo niente. Può magari però per cercare di riparare il danno critico che avete, riparare gli scudi. Beh, può farlo Shiuno, che è un meccanico provetto. Prego. Devi fare il tiro? Io rimango, ma adesso siamo a usare Mechanics. Sì. Che quindi ti si basa sull'intelletto, quindi sarebbero 5 con 3 no, fermi, siamo atterrati 3 gialli e 2 no. Verdi no, era già più bravo di scena eh? Atterrati no? Sì, siamo atterrati, adesso dove? Partiamo di sotto dalla... Ah, beh, allora sei atterrato adesso se alla fine sala ce l'abbiamo fatta potevo atterrare allora scendere a terra invece che scendere lì dalla sopra no, andiamo dalla cosa là, dall'altra cosa cambia? Che io sono sceso al piano di sopra una o due manovre ci sarà una volta che si sono accorti ci sono accertati di non poterci aiutare atterrati no beh andiamo nello spiazzo ok andiamo nello spazio no perché se no qui è un casino va bene e niente blu andiamo nello spazio e nello spiazzo e quant'è che devi entrare? Tre gialli, due verdi, due viola lo spiazzo è vuoto è già riparato sì sì allora lo spiazzo non ci siete andati. Cosa perso? Io non ho capito dove siamo. Non so dove per me siete ancora dalla base. Sì, quindi loro sono scesi. Adesso uso due manovre per andare dallo che è piazzo. Sono i cannoni. Ah, i cannoni sono lì nel. Le stelline contro questo le punte sono successi. Capito. Ah, sì. Tutto lì ne ho uno. I fallimenti di triangoli? Tre. Per questo lo volevo lasciare qui allora, perché così io esco e spara chi arriva sì non ce l'ho fatta però ho avuto un sacco di vantaggi quindi allora ci atterriamo lì e io mi preparo no usciamo col caccia andiamo ad abbattere la tipa è la più facile del mondo tanto ci sono loro due interpretarlo non l'ha riparato ma è bella lucida oppure coprite noi adesso hai guardato il caccia così. Devo sì, è qua. Tieni. Cioè, coprite il nostro movimento che... verso no, i campi. No, non è questo. Non è questo. Magari. No, questa è la nave che aveva requisito. È il foglietto che ti ho dato. Ah, il foglietto, scusa. Tu quando non ti diciamo le cose di quelle navi, cosa hai capito? Magari fosse quella carta. True shot. Ci ho provato. Two girls, one cup. No. Two Girls One Aim X-Wing Guerra dei Cloni noi per guida è già una cosa che abbiamo si vede che è forte finestrino con 4 Helling più 0 scudi 1 e 1 finestrino con la manopola armor 3 trauma 12 poi ci sono colpo no capito c'è la manetta la gamba silhouette più bassa su staff con l'elastica comunque sensori è impossibile con questi dati sì, è una bella cioè, è impossibile un pilota d'artigliere questo dimostra quanto cazzo prima con ma me l'hai dato tu no? Con tre gialli no, con verde quattro, con viola sì. cioè tutta sta sessione dimostra quanto facciamo cagare nei combattimenti aerei sì, adesso comunque i nostri combattimenti aerei sai come sono ti affianchi la nave vabbè, ma cavolo, gli avvini, l'avrei aperta se non avessi dovuto aspettare l'itra turno verità è che siete rimasti tre turni fermi, esatto, per l'anima del cazzo a prendere le botte, che... già che c'era, oltre a spararvi con i cannoni, non mi ha perché da lì non avevo di spararmi comunque, perché non c'era sparato. Lui sulla nave, c'era Sceo e Sceo non poteva sparare. Sceo no, non poteva sparare. Ah, Sceo per la non violenza, no, è che avete solo un arco di tiro se non usate la torretta. Vabbè, adesso andiamo a prenderla col caccia, dai. Era una morte gloriosa. Okay, non è invece meglio se adesso ci coprite? Ah, no, guarda, perché hai freddo? Perché da chi? Coprite da chi? Da chi? Come facciamo a coprirvi? Chi è che ci spara con la salla? Facciamo un attimo il punto. C'è questa nave che è ancora lì. Ferma, no, ho detto parcheggio e partiamo col cazzo. Ma porca puttana, non potevi parcheggiare portandoci giù, Dio. Svedese. No, perché la mia idea era farvi salire, ma già che siete scesi, Dio svedese. No, perché questo è il deficit di comunicazione che abbiamo. Deficit di comunicazione che noi volevamo, cioè lui voleva fuggire. Io cosa, tu hai voluto fare come cazzo ti pare. Allora, ci abbiamo messo due ore ad arrivare a questo punto, ed è comunque un buon punto, quindi non cominciamo a litigare. Esatto. Catta è sceso con la nave, sta uscendo col cazzo, esatto, che era quello che deve fare. Okay. E noi intanto stiamo scalando gli ascensori, spostandoci l'un l'altro, e va bene. E ora usciamo e andiamo a uccidere, andiamo a diplomatizzare, a fare diplomatici con i Wu. Solo che rega avete lasciato lì l'astrodroide, vabbè. No, il droide l'ha tirato. No, te l'ha tirato dentro l'astrodroide. Quello che dobbiamo fare noi l'abbiamo fatto, e manca il... Ora parcheggiamo, Sceo chiude la nave, prova a riparare, a rimettere dentro il droide, così sono due droidi che possono provare a fare qualcosa. Esatto. E partiamo. E io e te partiamo e vediamo che cazzo succede. Esatto, intanto io e Salla, che siamo giù nel secondo piano, ci sono dei Wookie lì, no? Tar. Secondo piano... Devo segnarmi qualcosa. Come ancora no. Salla, non vogliamo andare a prendere Kyle o andare ai cannoni? Boh, io preferirei... meglio primi cannoni, così sti due qua non crepano. Allora, noi sappiamo, possiamo individuare le posizioni dei cannoni, lo sappiamo? Sì, più o meno, sapete. No, ma io, cioè, più o meno lo so dove. Ah, vabbè, allora posso... cioè, ero sulla nave quando Sceo faceva il suo tiro. Ah sì, però aspetta, io ho 3 di vita, io devo prendere gli steampack. Uno steampack quanto mi dà? 5. E il secondo 4, giusto? Mm-hmm. Sì. Allora li uso entrambi. Devi integrare quello che hai lì con quello che ti mando, carta. Ah, bravo. Tu Salla sei full? No, però posso provare a fare una prova di cura su di te. Quanto sei ferito dopo i 2 steampack? Sono full. Ah, sei full, vabbè, niente. Sì. Ciao. Tu sei full? Sì, e possiamo riprendere fiato un attimo, Giulio? Se vi nascondete, sì. Vabbè, prendiamoci un round per riprendere fiato, Arci. Cioè, che vuol dire riprendere gli stream? Prendere il fiato un po' più di un round. Cioè, voi... Beh, per gli strain, no? Sì. Io sono quasi fuori di strain. Un momento di pausa, cioè voi vi togliete dal combattimento, magari cercate di uscire senza fare altri scontri. No, non lo facciamo, provo a curarmi. Cos'è sta cosa? Provo a curarmi da solo, allora, un nero, anzi un viola. E un altro viola, io tiro 2 verdi e 2 verdi e un blu. La nostra fa molto più schifo. Un successo, 2 vantaggi. Pronto un torpedo launcher. Abbiamo anche poi dei cazzo di torpedo. Ok, non sono full, ma sto un po' meglio. Vai. Io comunque ho 13 strain su 14 ancora. Io no, però vabbè, andiamo. Posso darti la mano a recuperarli o no, vero? No, ho già fatto io la prova di cura. Vabbè, ci sta. Vai. Se ce lo ripara, ci metti al nostro droide anche. C'è il software. Per il navicomputer. Ci serve. Quanto distano Salle e cannoni da dove siamo noi? Ha detto Giulio tipo 7 round. Completi. No, forse non ci serve. Non dobbiamo neanche fare niente. Vabbè, ovviamente non corriamo dritti, ma appena vediamo qualcosa di strambo. Tu hai computer saltro, vero? Io ho int 4. Stai facendo voi con il fatto con il caccia? No, stiamo cercando di capire cosa possiamo fare. Quindi, allora, ricapitoliamo un attimo. Io e Salla stiamo andando in mezzo alla foresta a cercare i cannoni. Arce e Salla stanno scendendo per andare alla foresta. Catta e Red sono sul caccia che devono andare a cercare l'altro caccia. Quindi Catta ha parcheggiato e partite con caccia. Sì, ho anche una base per farlo come incidental. Ok, cercate un turno. Come incidente? Incidental, azione gratuita. Ci sparano i cannoni, ma stiamo sulla base. Esatto. Sono long. Sono gli appiccicati? Ci sparano sulla base? Sparano sulla base a noi? Sparano a voi quando partite col caccia. Ah, col caccia. Il caccia non è tipo un mezzo, sembra un caccia dei ribelli nostro. Sì. Quindi allora non è un altro. Sì, capito. ho capito, nel senso, non è un caccia dei ribelli. Ma lui non può fare una cosa. Quindi come fanno a sapere che è un caccia nemico? È uscito da una nave che a cui stavano sparando prima, cioè... Ma non può fare una manovra evasiva. La nave che ha parcheggiato giù, ma i cannoni sì, la vedono. Non possono sparare in basso. No, non sparano alla nave, sparano a caccia quando appare. Quindi come fanno a vedere che è uscita da lì? No, vedono un altro caccia e gli sparano. Ma non possono sapere che è uscita da lì, quello voglio dire. Vabbè, vedono un caccia che non sa cos'è e gli sparano. Non possono saperlo, cioè non hanno modo di saperlo in tutta la base. Vabbè, tra l'altro il nostro non è una loro nave. E loro gli sparano. Cioè il modello della nostra nave non è loro, quindi... Non è così assurdo che gli sparino. No, un caccia che non sa cos'è, gli sparano. Però può fare una manovra evasiva il caccia. Quando partiamo? Sappiamo che dobbiamo passare dai cannoni. Sì, ma tra l'altro c'era un motivo per cui andavamo prima a distruggere i cannoni. Vabbè, faccio la manovra evasiva. Tu stia scherzando! No, allora, andiamo a distruggere i cannoni. Ho detto 5 minuti fa, copriteci mentre andiamo a distruggere i cannoni. No, che la cazzo ti copriamo? Noi partiamo. Cioè, i cannoni, ma siete nella base. Copriteci. Lo piloto in modo da essere difficile che loro che i cannoni mi colpiscano. Cioè, invece di partire su così, non lo so. Vabbè, Osala, noi corriamo più veloce che possiamo e distruggiamo i cannoni. Sì, però questa è la mancanza di comunicazione. A piedi, ma voi state dando il cannone? Ma che ne sa? Noi cosa ne sappiamo? Cioè, voi siete scesi e avete detto: rega, potetevi! No, cioè, abbiamo detto che andiamo ai cannoni. Usate il copic e ditecelo. Io te l'ho detto, cazzo, è 2 ore che ho detto: copriteci mentre andiamo ai cannoni. Ah, io non ho capito i cannoni. Poi, comunque, ripeto: cioè, non sono io. Non è che andiamo nella foresta a fumarci delle canne. Cioè... No, io pensavo che voi andassi alla base a cercare il tizio. Ovvio che se becchiamo Kyle lì che piscia dietro un albero lo scantiamo. Se sopravviviamo ci sarà un nuovo rimaneggiamento dei... Kyle è il capo dei ribelli lì, che è odioso. Siamo presi di simpatia per appena atterrati. Vabbè, non ce la faremo. Allora... Sono 2 cannoni, vedete, salvo. In verità dovreste accelerare. Sono 2 cannoni. Non so. Adesso i cannoni, gli ho detto 2. Ho detto cannoni, non ho detto nulla. Ok, come la visuale di 2 cannoni? Ma guarda che speri che siano 2. Beh, ma tanto quanto vuoi che siano grandi, li tiri su subito. Ti avvicini, li stacchi e li spari su. Sì, vediamo. E poi cerco Kyle. Dove sei? Wendy! No, vabbè, una manovra, fai la manovra evasiva. Beh, in verità ci sarebbe... Guarda che tiro che devi fare. Ma quanto sono da noi i cannoni? Non c'è difficoltà, è una manovra. Era il mio di prima, era il mio ma quanto di sono i cannoni da noi? Ho perso. Da voi... Cosa avevo detto? 6, 7, spero 4. Long, se no faccio un salto e ci arrivo. No, dai colpi che partono verso il loro caccia, noi possiamo vedere quanti colpi sono in modo per capire quanti cannoni stiamo andando incontro. Quindi? Non ho ancora sparato. Ma poi hai fatto la manovra evasiva, capito? Sì. Quindi hai già schivato, no? Non lo so. Dobbiamo sparare. Quella è la troia che è sul caccia. Un personaggio prefabbricato che è il pilota che gli ha distrutto. È quello che ci ha sfondato la nave. Cioè, la parte del combattimento aereo è imbarazzante. Il nostro combattimento aereo è stare fermi e quando aveva uno finito di dire perfetto, ingaggiamo. Imbarazzante. E far salire e scendere della gente. E male, tra l'altro. Ora è la stessa cosa radicata. Gli scudi 1. Allora, se sono io alla guida, 2. Il lancio dell'ascensore contro la torretta è stato spettacolare. 2, e in più Vez nel suo round può spostarne uno dietro o davanti. Ma te, Vez, non ti conviene abbassare il finestrino con la manetta e sparare con il tuo fucile? Secondo me ci arriva dal mio fucile. Ci fai farmi più male. Niente, mi manca. Ok. Ma quelli non capisco, noi sono a long da noi. O a show. Quanti hanno sparato, Giulio? Hanno sparato almeno in 3. Easy. 3, 2 li prendi e li sbatti su uno singolo. Che poi qua in realtà conviene che spari tu fondamentalmente. Cioè io... sì. Beh, Sale, se mi viene bene un buon tiro e la silhouette è buona, potrei prenderli tutti e 3 e lanciarli perché su. Abbiamo... saranno grossi. Abbiamo la torretta, abbiamo il torpedo launcher. Allora, abbiamo 2 torrette insieme e poi torpedo e dei laser cannon. A chi tocca, Giulio? Noi sono 7 round che corriamo. Sì. 7 round, ma cominciamo a vedere qualcosa? No, ovvio che se in questi 7 round aspetta, vediamo Kyle o degli infatti. Sì, non è che correrete 7 round avanti, qui si interrompiamo. Non è che perché. Vai. È stata una cosa faticosissima. Vabbè, prossima volta ci studiamo e siamo un po' più preparati perché è stato imbarazzante. No, anche io non mi ricordavo, cioè mi ricordo poco. Adesso fidarci. No, io la scena ce l'ho chiara, un po' buffa, però chiara. No, c'è tutte le manovre che puoi fare del combattimento. Certo. Cioè, la parte un po' più difficile del gioco. Devi salutare la telecamera. Quindi chiudiamo qua. Tirare. Esatto. Prima tirate i dadi. Ah, io vado che... No, grazie, ragazzi. Mi fosse detto... 7, Giulio. Più 4. E ci vediamo in palestra. Cioè, uccidere Wookie è... Stai zitto, Vez, più 4, vuol dire che sono un genio bravissimo. Tira un di 10. Ciao. Buon non ci credo, non è vero. Più 4 è moralità per Idobor. Vuol dire che sto diventando un corpo genuino. Aspettiamo Zod. Uccidendo 7 e non ho ucciso nessuno. Più 7 moralità per Zod, che è un dito nel culo, ma che importanza. A quanto pare il lato chiaro è anche... Adesso stacca la diretta e poi vi dico due cose che secondo me. Allora, avete visto episodio 22 di Petrolieri Spaziali, è stata una sessione di combattimento che si è un po' incartata verso la fine. Avete visto qualche litigio e qualche presa di posizione. Avete visto ballare gli Wookie, soprattutto volare fuori dalle finestre. Ci vediamo forse la prossima settimana, non lo so, vedo delle facce confuse. No, sì, però non con Star Wars. Forse con Abstracted Heroes. Legless Hero. Raga, però, piacere, scegliamone uno e andiamo un po' avanti con quello, sennò ogni volta io mi sballonzo le trame, i ricordi, le ricordanze, le reveries. Direi che ce la puoi fare, dai. E Unstructed Heroes forse la prossima sessione. Che riguardi il... No, nel senso, mi ero infottato con sto fight, questa cosa qua, adesso che facciamo... Arrivederci, grazie.